giù parlando io, là, parla bravo. Oh, Gianni. Ciao Eugenio. Ciao già. E beh, e te mi conta già. Oramai ti riconosco la segnale, è proprio la fuggita. me lo posso immaginare, dai. Qua stai combinando, lavoro sì. No, ragazzi, va a casa, ho finito. Capa Roger. Bene meda. Bene meda. Quindi l'emergenza cavi aeriche è terminata, sì. Sì, sì, terminata stamattina. Stamattina verso le 6 del mattino. Cazzarola. Bubu. Vabbè, dai, cosa che succede? Va bene, ciao da. Ah, questa cosa che mi ha portato. Come sono quella? Sono chicco. Qui va la sincerità. No, non mi piace. L'altro giorno tanto sono venuti bene. Oh, va bene, sto uscendo. C'è un leggero eco ed è bassa. Un leggero eco, sì. No, è bassa, è bassa, è bassissimo. È mai tutto piano. Anche tutti i negativi. Sta andando, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Gianni! Eugenio, ciao Franco, buonasera, non so se mi copri. Sì, ogni tanto qualche scarica sembra tipo cavo difettoso o il PTT sporco lì. E quindi Eugenio, dai, è uscito il sole, dai. La maschera per saldare ci vuole. Ehi, la maschera per saldare. Bene, dai, sono contento. Sono contento, dai. La belva. Adesso mi faccio la doccia. Mi faccio bello come il sole. Ti tiro il pelle, bello. Mangia il corso e mi faccio girare lungo là. Da fare il figaccione. Oh! Da sotto! E beh, tu sì che te lo puoi permettere, dai. Bene, dai. Non avevo dubbi che tiravi fuori la moto, dai. No, vabbè, mi faccio un giretto. Non è che l'abbia assaiata e sono stanco, sinceramente. No, non esco, no, non c'ho lo spirito ancora. Sono stanco da ieri. Smontato stamattina, ho smontato le 2 metri poco fa. Sono stanco. Me lo posso immaginare, dai. Me lo posso immaginare, dai, già sei. Già ce la fai, dai, già sei tosto, come si dice. Io tosto 20 anni fa. Adesso inizia ad essere grandetto. Mi sento una merda. Ascolta, se si può dire, buccia tutto. Adesso quanti ne hai? 50 sì. Caspita. 3 più di me, dai. Il tempo vola, amico mio. No, devo fare 46. Devo fare 46 a ottobre. Allora sono davanti io, dai, vabbè. Non me la fotti nulla. Di molto? Compa, io sono delle 6-5. Ah, del 76, io sono del 73. Mio fratello è del 73. Cazzo, fratello lo conosco, come mai? cosa di gioco? Roberto si chiama. Roberto Blocchetta, no, non lo conosco. No, lui non c'era lo stesso titolo, lui è Sanna. Non ascolta la stessa musica, ascoltiamo noi, dai. Negativo. No, è un'altra barrocchia, Brooke. Scigalissimo. Negativo. Tuns, però ha contuso io, dai. Ah, ho capito. È un po' più giovane di me, quindi, insomma, è un po' più elettronico, dai. Ma cosa fa? Ti ha contuso? No, lui fa altro, però ogni tanto ho visto che si è comprato un controller o una cosa del genere. Già c'avevo una console prima, però ogni tanto, sai, con gli amici gli capitava qualche serata così. Ah, allora può darsi, sì, cosa ne sai, magari sicuramente, il dato del mondo è piccolo, probabilmente magari, lo conosci, boh, e chi lo sa. L'abbiamo perso, ma dov'è, vicino a te, oggi? Boh, ma non mi sembra Franco di Sosso che conosco io, boh. Perché? Boh, c'aveva tutta la voce impastata, il suo microfono anda e torna. Davvero? Perché? E te l'ho spiegato, microfono impastato, voce anda e torna. A me mi sembra che stia uscendo bene, a te cosa ti sembra? No, è lo stesso microfono, stava bravo. E adesso non è lo stesso microfono? Non è lo stesso microfono, il poco fa. No? È tutta un'altra storia, però è un microfono... Adesso sta uscendo bene la radio. Adesso sì, ma poco fa no? Poco fa ero con un baracchino, adesso no. Poco fa era una bucaria, fra, era... C'era uno scarico e fassi i contatti, cioè... E quindi era così, boh. Sì, stavo provando... Stavo provando un'altra radio, capito? Con un altro microfono, però non andava bene. E lo sapevo quello. Sono contrivuli di che mi di cuprirmi cos'è. A te insomma Tino ti ha contagiato, dai. Tino ti ha... come si dice? Ti ha contagiato il morbo, dai. No, non mi sta più. Sono capofonelli, mi. Lo so, non mi sto offendendo. Ho detto, io ho sempre una radio che male che vada, vedi, vengo qua, accendo questa, giro il pulsantino e sono una radio che esce bene. Certo, vabbè, allora aveva ragione Eugenio che hai cambiato il microfono, dai, e ci ha fatto pure la radio. Va bene, facciamo venire avanti Eugenio, dai. Un attimino che... E ricorda, mia moglie mi ha portato due piattini col cioccolato sopra. Oh, mamma, cosa vede, Da sotto. Va bene, avanti, fra. Ehi, capo. E domani arriva anch'io. Oh, yeah. A ingrassare, Emmy. Dai, a meno quello. Se nella vita non ci si concede quello, guai guai. E allora, un po' ci vuole sempre. Un po' credo bocchi dolci, dai, va bene, dai. Un po' di dolce, in mezzo a tutto questo amaro, dai, già va bene. Sì, tutta la riga, propagazione nuda, e a la sera, sono assenti tutti a fa brutto, dai. No, vabbè, no, già non mi ha fatto nuda. Voi li sentite, sì? Io no, ho messo lo squelch. Boh, cos'è squelch? Tu, fra, li senti? Franco ha staccato un attimo. Olbia. Bene, dai. Mangiando bianchini, hai capito? Vabbè, ci vuole, dai. Ah, quando mi fai queste sorprese, io sempre detto, una donna sposata. Capo Roger. Oh yeah. Adesso mi devo controllare il telefono di Radio Bus. Ah, l'ho messo a caricare. L'ho messo silenzioso perché intanto ogni tanto vado a controllare se c'è qualche messaggio, qualche chiamata. Oh, ma Marcolino sempre a peggio, non fa più entrare. Marcolino, aiutami. Marco Condo, dai, Marco Rafa Piazza. Ah no, vabbè, ogni tanto, l'altra sera stavamo facendo una chiacchierata. Stavata in scelta, non l'ho più sentito. Vabbè, chiaramente ha i suoi orari, le sue cose da sbrigare, quando ne ha voglia già si fa sentire, dai. Già lo so. Ho fatto una lunga chiacchierata anch'io al telefono. Io ti prego Marco, dimmi che ho trovato a pugna faccia, io giù fagli. E zio Pasqualino, non c'è? Zio Pasqualino. Claudio Fabiano. Negativo, oggi non si è fatto sentire, vabbè, presto, sono le 5:30. E questo come va? Bene, sta uscendo questo. No, ci sta provando dietro le scariche. E mai? Quello tutto un colpo, anche a voglia ci senti da ritardo. Sei tutta una scarica, tutto lo sciacquone. Successo qualcosa. Ho detto, qua è successo qualcosa. Adesso sta andando bene, però sta usando un'altra cosa. Via, sta usando un'altra cosa, sì. E vabbè, là. Però che arrivano a butto, se la fermo butto e non ti faccio. Sì, sempre baracchini, è tutta elettronica, non c'è nessuno dentro che parla. Smettetela con i cazzaffitti, intanto non è filtrante quello che parla. Non c'è nessuno dentro. È un callare. Che serie? Così tazza? La salsedia, la salsedia. Luca Ferri. Ehi, stavo controllando il telefono. Stamattina, non mi ricordi, non so se lo conosci, Cristiano Porquedo. Ma con chi c'ha? Con te, OG. Cristiano Porquedo, lavora alla Gena, c'ha un intruder nero opaco, basso basso. Ho capito chi è. Sì, Cristiano, fa buia. No, negativo, adesso c'ha due bassettoni molto English, l'ho trovato in carne, insomma, già l'ho trovato, stava bene, dai. Siamo beccati stamattina vicino a Eurospin, che doveva mollare la moto a fare un controllo al meccanico. Adesso c'è un giorno senza vedirlo. Bene, bene, mi ha fatto piacere, dai. Cristiano è troppo forte, è uno dei miei amici, anche per il lavoro che fa, bello, lo ci dice lì, tu a me, e poi vai a vedere il lavoro che fa, è un mito, è un grande. Certo, certo. Eh sì, vabbè, poi dovevo scappare al lavoro, quindi ci siamo fermati il tempo di una sigaretta, così, baci abbracci e ci siamo salutati. Da un po' che non lo vedo anch'io. E da un po'. Cristiano, cazzo, è troppo forte, troppo forte. Mi ha detto che si è spostato a Tisi adesso, che sta lì. Praticamente ha ripreso a suonare con un gruppo di amici, fanno swing, roba straniera, italiana, e niente, sta suonicchiando il contrabbasso. E niente, si sta dando da fare, dai. Aspetta un attimo, Ehi, adesso com'è la radio? Sempre la stessa radio di poco fa, eh? È un po' compressa, è leggermente compressa, però adesso non ho nessuna scarica, è chiara, però è un po' compressa. Ehi, caffa. Va bene, se mi allontano così com'è? Ancora compressa? No, perfetta. Ehi, caffa, adesso sto usando l'M60 però, vedi? Però c'è qualcosa nella radio che va a comparsa, sempre quando senti che sta spingendo troppo, mi tende a strappare leggermente. Ma non sta spingendo? Allora, vediamo un po' così. Così com'è adesso la radio? Adesso dovrebbe essere migliorata come radio. Ecco, adesso non strappa, è perfetto, adesso va bene. Capito, va benissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Io poco fa neanche me lo ricordavo perché avevo lo spettacolo di questo. Va bene, va bene. Oh, Gianni, ma tu non stai più suonando? No, sono fermo, perché? No, ma con gli anni andati, fermo, sì. Sì, nel 2010 noi come ci siamo fermati. Ma vi siete sciolti? Eia. Coglioni, perché? Come tutte le cose, era finito. È finito il momento e niente. Adesso gli altri, c'è Luigi che sta suonando con i Rusty Punks, con Gigetto, il bassista. Marco, non so cos'è Fendi, e gli altri, non ho idea. C'era forte, era bello quel gruppo di viaggi, vabbè. Bello, vaffanculo, se di... vabbè, niente. Era già ce ne siamo levata la mosca dal naso, dai, comunque già è stata una bella esperienza. Ogni tanto ci penso, dai, però chiaramente sono cambiate un po' di cose nel frattempo. Mi ricordo quando avevo preso la radio di Florida, se possibile. Sì, me l'ha teatro, te lo ricordi? Aspetta, devo fare memoria. Sì, può darsi. Sì, mi ricordo. Vabbè, ma eravamo lì, forse eravamo freschi freschi ancora, cioè agli esordi, penso, nominalmente. Era il memoria di Cotti, come si chiama, della Borella di Diabolica, finalmente. Sì, adesso ci sono. Adesso ho capito. Sì, eravamo praticamente. Eravamo primo pelo, dai. Stavamo appena iniziando, quindi. Eravamo, dai, un po' così. Non eravamo chiaramente sciolti come giusto. Forte cazzo, bellissimo, il genere di piedi a me. Un minestrone, meno un po' credo di tutto, dai. Sì, poi vabbè. L'ultimo. Abbiamo fatto l'ultimo concerto a Sassari il 25 aprile 2010. Ho capito. Sì, io sono rimasto ancora di Atlantica. Io ogni tanto, poi ogni giorno mi metto a palla a casa Luigi, la chiamati Luigi. Claro che sì, vabbè certo, certo che me lo ricordo. Troppo forte. Di 99 forze, però quando stavo iniziando, no, va. Gli assalti frontali, mamma mia. Gli assalti ho visto che sono ancora in forma, sono ancora in piena. Abbiamo avuto il piacere di suonare insieme, abbiamo suonato, abbiamo fatto un paio di concerti insieme con gli assalti. Uno l'abbiamo fatto a Genova, alla Zappata, al centro sociale, e l'altro l'abbiamo fatto a Firenze, durante, adesso mi ricordo se era una festa dell'Unità o roba del genere, però la periferia dove sono dei giardini enormi, era una settimana vera di dubbio, film, dibattiti, e poi c'era l'area concerti e abbiamo suonato insieme, è stata una bella storia, dai. Ma ci sono i battaglie, adesso fanno cartoncine per ragazzini. Ma che gli assalti? Perlomeno a me non mi risulta, amico mio. Quello che ti dica. Dai, sono sempre rimasti loro, secondo me. Poi giustamente è inevitabile, col passare del tempo qualcosa si aggiusta, però più o meno che mi ricordi sono sempre loro. No, mi pare non per più nemmeno tanta alla voce. Sì, che c'è Luca, già c'è ancora Luca. C'è ancora lui? Eia, tra l'altro in questi giorni mi sembra che hanno pubblicato un nuovo pezzo, e mi sembra averlo visto su internet. Sì, dopo lo cerco, su YouTube. Sì, hanno un nuovo video da poco uscito di un pezzo loro, dedicato ad una donna, non mi ricordo, insomma, ho visto la recensione, visto che un amico l'ha pubblicato. Anche lui è molto amante degli assalti mi ero promesso di guardarlo, però vabbè, c'è una connessione che va e viene qua. Dai, che sono sempre loro, dai, sono sempre in forma, cazzo. Vabbè, via. Adesso che mi faccio una sigaretta, dai. Non mi viene adesso. Comunque, basta che metti gli assalti frontali 2019 e vedrai che ti esce. l'hai beccata? Simonetta. Già è quella, sì, era dedicata alla donna. Beh, Franco, smanettando? No, sto guardando un film. Ah, ecco. Postazione multimediale, il vecchio e il nuovo, dai. Allora, adesso mi sto guardando un film. Veramente mi sto guardando un match. Se mi sbido. Già si sente la tonalità della voce. vabbè. Abituato a pesarmi un po' carino più tardi, invece oggi mi sono più abbiucchito. Già va bene, dai. Va bene, va bene. E allora oggi? Che mi dici? Ti gusta? Ma no, non sono nel modo di una volta, come ho detto. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Si evolve col passare del tempo e quindi anche loro in qualche maniera si sono evoluti, no? Luiz è rimasto Luiz, cioè per essere commerciale è andato via dalle scelte ed è un grande. Questo sono diventato un po' commerciale, dai. Ma se come se definissi già stati affrontare i commerciali. No, vabbè, no. Già stati i commerciali non ci sono mai stati, dai. I commerciali è altro, c'è altra mondessa in giro, no, a futidini. Sì, sì, sono d'accordo, quello sì. Però sono cambiati, dai, da che ne so, dal primo CD a tanti frontali, il muro di nessuno, come si trovava, non lo ricordo. Eh beh, certo, ma è fisiologico, è normale, poi magari chiaramente come tutti gli aficionados certe cose diventano ripetibili, no? Ci piacerebbe sempre che i nostri gruppi musicali suonassero sempre la stessa cosa, cioè con lo stesso mordente, ma già lo sai, il tempo, insomma, le cose cambiano anche molte volte. Tu lo conosci bene, Luca, sì. Bene, una parola grossa, Eugì. No, comunque lo conosci. Sì, sì. Avevamo aperto un loro concerto qua a Sassari nel 93-94. E poi avevano risuonato a Sassari alla Cabacchera 2008-2009. Praticamente quell'anno abbiamo fatto una sorta di reunion con i Matrice Sarda e abbiamo suonato insieme a loro alla Cabacchera. Sì, forse ce l'ho anch'io, forse se lo salito a vedere. Già è stato un bel periodo quello, dai, quel periodo lì c'era un po' di movimento, dai. Adesso vabbè, no, io non faccio il testo perché sono uscito completamente fuori, quindi non ho idea di cosa stia girando, ma per quello che so, quello che c'è in giro non è che mi piaccia molto, dai. Cosa c'è in giro? Ma tutte tribute band, tutti tributo di Giz, tributo di Lassero, cioè, mamma mia, per carità. Mondessa. Discarica, ne stavo parlando anche l'altra volta, ti ricordi, quindi è molto triste. Puntella. Buonasera Claudio, ben entrato, sono in compagnia di Eugenio e Franco si era prendendo un film, forse per 6 mesi drumedio, boh. No, ascolta, sto sceso adesso da sopra a Vittoria. Ciao Eugenio, non so se mi ascolta. Rispetto a ieri che avevo l'antenna puntata dall'altra parte, lì dalla parte tua il segnale è migliorato? Quasi, molto, a migliorare, cioè, migliorato, è salito a 9 spiccioli, dai. Ho capito, ieri invece quant'era? Ieri era tipo tra il Santiago 5 e il Santiago 6, qua. Vabbè, l'ho girata leggermente verso più minuti, va bene, non so se Eugenio mi ascolta, comunque buonasera anche a lui e dopo rimango in quel X che devo finire, dai. Eugenio mi ascolti lì a Porto Torres. Radio, mi sento Santiago 1, Radio 2, in mezzo al QRF, se mi ascolti, ciao. Ah, hai fatto un brutto, vai. Sì, Santiago 9, tu qua. Anche mai Santiago 1, sì. Ciao Eugenio, buonasera, dai, dimmi se mi stai ricevendo bene. Sei a Cra, la radio, una tua voce riconoscente, qua stai usando? È diversa la chimica, non è che stia dicendo male assolutamente, però è diversa la chimica dalle altre volte. No, vabbè, questo è un MB5, è un baracchino. È un MB5 con un baracchino, una 68, vai. Già va bene, già si difende bene, infatti sono 6-7, non di più, però mi interessava il segnale se era buono, perché ieri sto usando la mantova, sto usando la direttiva, capito? Sono in direttiva, polarizzazione orizzontale, ieri era puntata un pochino storta, oggi l'ho messa un po' meglio, vai. Vabbè, tu ieri non c'è, sì, non è che cambia molto, no? Se è puntata lì, è puntata lì e basta, infatti è verso Porto Torres, è spostata leggermente verso, un pochino verso destra, diciamo, dai, verso la Buti Buti, puntata verso Stintino, per capirci, dai, niente, è una tre elementi per i 10 metri, modificata per la 27, stazionale sono 1-1, va bene. Ok, sì, la timbrica è diversa chiaramente, però la radio già è buona oggi, no? Va bene, anche da te, Gianni, la stessa cosa e dopo vado a finire, dai. Quindi da 5 sono passato a 9, allora già si può usare dentro Sassari, dai. Anche fuori Sassari, non c'è problema. Sì, sì, Cla, sei 9 qualcosa, dai. La radio è sempre, cioè, anche se non c'è il K, comunque la timbrica si conferma. Adesso non so se è rimasto Franco, se è in ascolto, boh, prova a chiamarlo. Franco! No, ti ha ascoltato Franco. Sì, vabbè, dai, non è un problema, comunque, era giusto per capire se avevo fatto un bel lavoro, dai. L'ho fatta orientativamente con la bussola, quindi già è orientata bene, dai. Va bene, ci sentiamo dopo, proseguite, a frappè, riprendi già. Ecco, Capa Roger, Cla, avanti Daniele. Salutoni, Cla, dammi controllo radio, com'è? Buona, sempre la stessa, perché? Perché sono agganciato con quell'aggeggio che mi ha dato Pomponio ieri. No, la radio è perfetta, il segnale è aumentato. Ascolta, invece io ho girato leggermente l'antenna, la direttiva, da ieri a oggi è aumentato qualcosa lì da te. 9,25 abbondanti sei, quasi a 30. E allora già va bene, da ieri ero più basso mi sembra, no? Cosa, Cla? Ho detto ieri ero più basso. Un pelo, qua arrivi quasi, anche ieri quasi con questo segnale, dai. Forse un pelo di meno, va bene. Capo del rosmetro, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Riprendi Gianni, fai girare tu, io mi assento e già rientro dopo, eh. Ciao a tutti. Aspetta un attimo, Gianni. Ehi, avanti oggi. Avanti Daniele. Eia, salutoni, chi è? Uge? Ciao Dani, esci di segnalone, è successo? Segnalone? No, ho messo un foglio di carta. Ma non mi sono arrivato così forte. A quanto sta arrivando? Adesso ci sappiamo sette. Va bene, già funziona tutto qua. Va bene, va bene. Se voglio posso aumentare di più il mio UG. No, va bene, io ti ascolto benissimo, il segnale è buono, è andiamo a conto. Aspetta, guarda lei, su G, cosa dice? Niente, è uguale, la radio è più compressa, attacca di tutto. Aspetta che riabbasso. Aspetta, guarda lei, su G. No, già abbassato un po', c'è visto che ha messo. Hai superato il jet, di poco mai l'hai superato, guarda. Non so, neanche pompando. Se vado, ciao. Ma dico la radio per compresso. Vabbè. Va bene, a me interessa quando gira con le calecca. Va benissimo, Luigi, va benissimo. E io vado su di fatti, dai due fatti. Che non so dove siano. Ma io sono zona Via l'Italia, l'ultimo pezzo di Via l'Italia verso l'uscita di Sassari. Qua sta arrivando Santiago 5. Ho capito, forse ho visto anche, siete proprio al come si dice, al Diebrek. No, molto prima. Ah no, vabbè, non è il nostro suolo. Prima in mezzo ai due distributori, dai. Cava. Poi chi c'è qua? C'è Gianni, conosciuto come Gianni Luprofetta. No, è Luprofetta. Gianni Luprofetta. Non sorpiate. Come dice qualcuno, lui prefetta. Quello è Giulio, dai. Ma l'hai sentito l'UX già? È certo che l'ho sentito l'UX. A Puglia. Attenzione, grandi modulatori. A vedere se c'è qualcuno. Più di uno ce n'è, ciao T. Buonasera. Compresso sono? No, compresso no. Cappa, ancora ho capito su quanto posso spingere per non essere compresso. 16. Buonasera Tino, Gianni sono, scommetto che stai già alla Lafayette oggi, vero? Ciao Gianni sono. Ciao Gianni. Adesso lo fai anche tu come quelli del sud, no? Gianni sono. E cosa fai, il Gianni? No, Lafayette no, assolutamente no. Ciao Tino! Ciao, ciao Eugenio, fatto tango. Grazie al ferro, fatto tango, cambio. Quanto sta arrivando Eugenio? E dimmi se la radio va in saturazione, che sto usando un 1048 con un MC60. Guarda, la radio è amplificatissima e va, se la battuta un pelino è perfetta. Questo è il segnale, Santiago 8, modulato, ma no. Cappola, onde qua. Amplificazione quella che è. Il Mickey Game te lo posso leggermente, ma dipende anche come modulo io, capito? Ma adesso non sta andando come deve andare perché sto parlando più moderato. Comunque attenzione, è perfetta. Cappola, ho fatto le connessioni anche per questo apparato, un po' aiutato però, vabbè. Ok. Già funge. Io qua sono a 15 di questo strumento. Non so quanti watt siano, però è a 15. Va bene, io anche ieri notte te l'ho detto. A me non piace dirti le cose per dirti che va bene quando va male. Ci dovete abbassare perché la radio te l'amplifica molto, hai tanto se. Ma spari tottino E allora è mancata la luce. No, ho cambiato apparato al volo. Non è quello T, dovete dire al punto di saturazione, io in base a quello regolo, capito? Se devo diminuire i watt di questa storia, aumentare i watt in entrata, voi dovete dirmelo. Ma se io te lo dico e tu fai quello che ti dice un'altra persona, tanto vale che ciccia. Io ti ho detto le cose come stanno perché ti sento diversamente da lui. E oggi, e con questo come, e come mi ascolti con questo? Questo magari è un pochino più basso, vero? Allora, Santiago 6 a picchia di gassetti, la radio è bella, e l'altra è più, diciamo, più prepotente, là. Però va bene uguale, attenzione. Campana, va bene. Facciamo girare Gianni, dai. Già, io gli ho detto le cose a Daniele, perché gli ho fatto delle cose con Antonello, però mettendolo alla massima potenza, poi potrei dirglielo anche tu, che tu hai anche orecchio più fino, magari, evidenzierai e ascolterai che la radio va in compressione, in saturazione, il segnale non cambia, effettivamente non cambia niente. Anzi, ora che c'è Eugenio, puoi fare una prova con lui, che è più lontano di noi, così almeno vedrai cosa dice. Per me andava bene a 16 o a 15, 16-15 era perfetto. Se a 15 mi dà lo strumento del gingillo, se no posso diminuire. Guarda adesso è successo. Per me è chiara la radio, è chiarissima, è bella. Poi, se tu vuoi andare di fronte e rovinarti la radio, sei liberissimo di farlo. Puntella. Vero, fra. E tu che radio stai utilizzando? Sempre quella di ieri, con l'MB più 5, però ho girato l'antenna, perché il segnale ti ha aumentato. Sì, sei 9-10, dai, a questo apparato è qua. Già va bene, ho visto che l'apparatore se non cambia, quindi ci hai puntata bene adesso, per non stare a cambiare antenna, eccetera, lasciamo questo. Sempre questo però è il mio, questo è l'Aran 48 con l'MB più 5, cambia. Sarà bene, va molto bene qua. Va bene, puntella? Sì, se me ne va, sì. Va bene, allora puntella Gianni. Puntella. Sì, vabbè. Come hai detto Tino, io a Daniele gliel'ho già detto, arrivato a un certo limite per me diventa inascoltabile. Daniele, non ti compressare pure tu, lascialo stare, come ti ha detto Tino, ok? È meglio perdere un segnalino e avere la radio bella, non cambia niente, assolutamente, non sollevare di più, intanto toglietevi dalla testa che da 150 a 160, a 170 non cambia assolutamente niente, cambia da 150 a 200, allora va bene, capito? Però ti rovina la radio, lascia i watt così e il segnale è ottimo, la radio è perfetta, puntella. Puntello, non so neanche quanti watt li sto dando, sia in entrata che in uscita. È fermo, me l'ha fatto lasciare Massimiliano i watt a ore 9 della radio, e questo è a 14, 13 di questo strumento. Cosa vuol dire 14, 13, cosa vuol dire? Sì, quanto era? 140, quanto è? Ma allora io ho capito che alla massima potenza ne era 200, tu ieri era 16, segno evidente che sono 160, se sei a 14 ora sarà 140, ma va bene anche 150, però fermati lì, non stare lì a fare, perché poi ti ho detto, quel valvolare, Claudio mi insegna che i valvolari se li utilizzi facendo ping pong vanno anche una meraviglia, dopo un'ora che sono accesi. Dopodiché, se tu invece fai dei passaggi che con delle pause prolungate devi sempre accordare. E si conferma. Aspetta, lo porto a 15 da qua, aspetta. Poi metto tutto come era. Guarda un po' cosa dice, è cambiata la radio. Ieri abbiamo fatto le prove, le abbiamo già fatte, stallo a 2 watt e poi pilotati con colui. Un pelino li aumentati, dai, dalla radio, in ingresso. Com'è qua? Va bene, nonostante siamo vicini, va bene. Però non stare a cincischiare lì, a compressarti la vita. Puntella! Puntellato, qua. Non lo so quanto posso spingere al massimo. Capito? Adesso arriva di nuovo a 15, come era ieri. No, ieri è sceso sino a 25 T, quando ero compresso era a 25. Secondo me dovresti abbassare leggermente un po', la radio un po', io ti ascolto un po' compresso, leggermente compresso, ti accendo meglio prima. Eia, è vero, però lui l'ha messa così ieri a 2 e poi l'ha portato a 15 quando stava facendo dei passaggi lunghissimi e con la portante molto anche ferma per fare l'accordatore per le varie, quindi l'amplificatore era abbastanza caldo per sostenere quella portata lì, capito? Abbassa la pena appena, già va bene, anche nella media come stai dicendo Lugino, appena appena di meno, e la varia è perfetta, non distorce, non è compressa, è chiarissima e vera grande. Però mettici un chiodo, che Lo so, vedi, adesso stanno andando verso il 16, ma mano che scala sta aumentando questa storia, aspetta. Guarda un po', adesso è a 13. Ora, aspetta. Guarda un po', adesso. Guarda, io ti ho leggermente, con le figlie ti ho portato un numero che è pari a 7, no? Giusto per capire se sta aumentando quella roba lì o sta diminuendo. Sì, fermo sempre nel solito punto, nonostante tutto stai utilizzando più watt o meno watt. Quindi ciò mi fa capire che anche se tu aumenti o abbassi non hai cambiato di niente. Cavolo, e adesso ti cosa è successo? Ora. Lasciala così che va bene, lasciala così. Va bene, ok. Cazzo, da stamattina chi ha acceso questo aggeggio? E poi Leno già ti ringrazierà, non c'è problema. Ma però le lascio accese a prescindere dal radio, dalla mattina sino alla notte. Andare. No, non sto scherzando, io accendo, me ne esco, usciamo, torniamo e poi stanno sempre andando. Va bene, va bene. Bene, bene, io ho dato la mia, poi ognuno ha un orecchio differente, un segnale differente, e quindi devi trovare un compromesso. Io di più non posso dirti, Daniele. È giusto che sia così, io non mi posso ascoltare, se no avrei fatto, capito? Siete voi le mie orecchie, mi dovete dire va bene, abbassa, fai così, fai colà. Sì, ma io te l'ho detto da ieri notte, anche se un'altra persona già fa i nomi e ti diceva aumenta, di pompare, di fare, che già va bene, non andava bene. Cava. Adesso sta più scala questa storia più sta iniziando ad andare. Ora. Puntella tutto, puntella, raga, tutto così. Quando devi fare a burotto col motocarro su 45 attacchi l'artiglieria pesante, però per fare QSO attaccare l'artiglieria pesante secondo me non ha senso, questa è la mia opinione, Daniele. Ehi, già, ma questo devo fare andare che era un po' di tempo fermo, capito? Lo sto facendo andare, lo faccio andare e poi quando vado di là attacchiamo, accendiamo il carro armato. È vero, guarda, io adesso è che l'ho prestato il valvolare, se no ti avrei fatto sentire, ma forse l'avrei anche sentito già, ti ricordi che usciva in saturazione, perché non avevo un apparato ancora, infatti lo devo provare con questo, ma se lo far riportare, farlo provare con questo e vedere un po' se riesco a non farlo saturare, dandogli proprio pochissime watt, in maniera tale che, però la rottura di palle, come dicevo a Daniele, è che più lo utilizzi, più lo devi accordare, perché tanto lui si sposta sempre. Infatti i valvolari sono belli perché pompano, ma quando fai insomma un po' di questo magari sempre martellante, così no, non lo so, sono meglio i MOSFET. Quello sì, ho veramente ragione. Perché sono subito pronti, prendi e vai, e non stai lì a scalda, fredda, scalda. Già va bene. Ha ragione anche quell'altra persona che se esci di portante per dire devi avere un determinato segnale, i watt poi sono quelli, la modulazione è un'altra, però quando tu gli dai quei watt lì la tua radio va bene. Fregati. Poi quando l'hai attaccata con l'elicottero, come lo chiami tu, andava alla grande, tant'è vero questo, va bene. Perché poi va a camuffare la saturazione, capito? Andà bene, io, Eugenio, dove sei finito? Non ti sento più. No, sono qua, sto ascoltando a voi. Sono già qua. Ascolta, adesso ti faccio una prova, Roger, tanto che tu sei più lontano di tutti, no? Mi hai detto che ho un segnale di 7 con posizione con picchi a 8, così è. Prima, adesso sei a 6 con picchi fino a 7. No, no, anche prima allora era così. Guarda un attimino che alzo un attimino le vatte. Ora, ora. E mi dice ha cambiato la radio, Guarda un pochino, ora ho messo 10 watt. Ora, 1, 2, 3. La radio, guarda, alle mie orecchie è leggermente più bassa e si è passato da 7 a 8. Vabbè, la radio è bassa, basta fare così, appena appena magari si aumenta, credo, Perfetto. Si è passato da 7 fisici e modulati a 8. Mi turba Gianni? No, è già ancora ascoltabile, però chiaramente se ti vi su si arruina già. No, io sto andando con il parte dell'apparato, non sto aiutando niente. Sì, magari di amplificazione microfono, dici? Capa, dico, ti stai avvicinando al limite, a quel limite lì, capito? Se rimane così ancora va ancora bene, se poi chiaramente se smanetti inizia a diventare critica, capito? Ok, dai, ho abbassato, guarda, vedete. Ma siete vicini, magari da te in lontananza queste cose bisogna controllare. Comunque andava bene, era bellissima, io l'ascoltavo benissimo. Lo so che in lontananza è migliore, però è inutile, diciamo, quattro gatti qua. Ho abbassato Gianni, guarda se va bene. Sì, adesso va meglio, chiaramente per QSO va bene, ma sai, poi vabbè, è una cosa abbastanza semplice anche da spiegare, da capire. Cioè, chiaramente se si è più di due, più di tre in QSO, cioè, uno accende e lascia il volume, così come è bene o male sente tutti gli altri in maniera uniforme. Quando poi succede che qualcuno va, il volume gas a 3000, è logico che ti dà un po', insomma, rompe un po' le scatole per quello, faccio questa cosa qua, per cui, cioè, senti più o meno gli altri a un certo livello e poi in casa si sente la sparata in pompa magna, compreso. Non so se ho descritto bene la questione. Lo so perché sono di stare alzando e abbassando il volume, è da fastidio, sì. Bene, adesso per dire, vedi, ha i suoi 10 watt dall'apparato con picchi positivi ora a 14-15, è normale così. Per cui Daniele, la caccia ha tutto così, puntella e non tocca, se proprio che... Puntellato, se vuoi accendo anche la motocarrozzella, Dai, io dico la mia, puntelleva. No, no, non attaccare il motocarro, per favore, dai, no, mamma mia, cazzo. No, invece, per curiosità, provalo, io, dai, vediamo se va. Guarda un po', cambio. Vedi che già va bene, non distorce ed è perfetta. Cappa Rogero. Lo puoi conservare, grazie. Parcheggiato. Claudio sta mangiando il cane. Hai detto la poi che entra Massimiliano. Comunque già, poco fa ho bocciato, eh. Aspetta, mi sta rullando una sigaretta. Non fumare, Rulla di tamburi. Non fumare che ti fa male. Vabbè, se ho sbagliato con la bocciatura me la prendo, è che non è una scusante questa, adesso mi era passato completamente di mente che avevi anche la 48, io ero convinto che quello che avevi l'avessi dato perché ne stavi sistemando uno per... Vabbè, comunque, non ho l'avevo tenuto in considerazione, quindi comunque, bocciatura me la prendo, nessun problema. No, va Beh, ne avevo due, quindi uno l'altro, l'altro è rimasto. Una è al ricopero. Ma ricopero, insomma, era giusto una controllatina perché non stavano dando i watt che erano dichiarati, quindi giusto per metterlo in sesto, però la radio già andava bene uguale. Non voglio fare il saputello, era giusto una sfida con me stesso, per vedere se riuscivo, cioè nel senso più o meno la timbrica degli apparati più o meno me la ricordo. È che dell'anno 48 ricordavo che insomma ci stavi smanettando sopra e non ho più considerato, ho detto magari l'ha dato, quindi non ho capito. Quindi in testa mi sono rimasti il K, il Lincoln e la Fayette. Infatti, questo qua essendo più basso è un altro ancora, che però non ti dico chi è. Ma è un nuovo arrivato o è uno di quelli che ho nominato io? No, diciamo che è un nuovo utilizzato, ma sempre della collezione. K, vabbè, ma adesso se tu hai 40 non ti posso sgamare tutti i 40, cioè, mi sto facendo riferimento a quelli che stavi usando spesso in questo ultimo periodo, cioè il Pluto, il Lafayette, il President e il K. Questo a chi lo assomigli? Aspetta che computo, dai. Cos'è Eugenio che non ti ho sentito? Amico mio, cioè, sta arrivando propagazione, quindi ti ho sentito male. Ripeti. Ho detto che le manca l'urano, che era l'urano, che io ce l'ho su mio. Fammelo vedere, dai, mandalo a posto. E dove te la mando a posto? La foto la mandi a Gianni che poi la manda a Claudio che te la manda a me. Gianni, tu ce l'hai la foto, mandagliela. A chi la può mandare? A chi la mando io a Claudio. Se non c'ho presente qual è. Andale, sì, sta passando la propagazione. Comunque già, l'altro era un classico 48 normale. Non mi mandare niente a me che non ne ho di WhatsApp, c'ho il telefono in riparazione. Prendi la moto zap allora. Già un paio di giorni che c'ho il telefono in riparazione, si è rotta la microchip, capito? Cambiando la scheda ho rotto il microchip e non funziona il telefono. Non me li mandare, Eugenio, guarda che l'urano se è quello che ci avevo io, che avevo dato a Massimiliano l'ha venduto a lui. Praticamente ce l'hai il... cosa ti posso dire? Guarda che baracchino è. Tipo Rangermi, tipo quello che ti ha fatto vedere Massimiliano. Sì, Massimiliano me l'ha fatto vedere una marea. Aspetta, lo cerco su internet. Facciamo cambio, dai 48 più o questo. Quale 48 questo? Sì. Io sono il 48. Non andava benissimo. Oggi, già va bene quello, lasciati stare quello lì. 48 io lo gomuto. Si intende Vista della Moca nella 131, è un baracchino, non si vi annuda. Esce bene, però prende un sacco di colpi, lascia verde. È vero, non è vero, è tuo danno. Come si chiama Uranio, il baracchino? Uranus. Aspetta che devo di spegnere il computer e accendo. Che cazzo è? La sintonia continua. Sì, una bella radio, era la mia quella lì, poi l'avevo fatta Massimiliano l'ha venduta a Eugenio, l'avevo presa diciamo semi nuova io, dai, una bella radio, va bene Eugenio, no, darsi a detagliare intanto, per lui ciò che ne facciamo, vabbè, stiamo tornando tutti ai baracchini. Aspetta, ma qual è quella col display arancione per caso? Giusto così, a mente così. Ehi, tipo quella, ehi. Non mi ricordo che era la sintonia continua, aspetta, devo vedere. È la sintonia continua, da 0 a 30. Vai, da 0 a 30, vai la puntella, 2 a 0 a 30. sì, vabbè. Errore mio, da 26 a 30, hai ragione, errore mio. Hai ragione, da 26 a 30. Ma è un bel baracchino però, oggi. Lo dico perché l'ho usato, è un bel baracchino. Molto selettivo, perfetto, poi quella nuova, nuovo. Quando ho dato Massimiliano io ci aveva, mi sembra forse un anno e mezzo di vita, ma l'avevo comprato da uno che ce l'aveva dentro la scatola, non l'avevo mai usato. No, questo è venuto maniacalmente, anch'io io l'ho messo qua, non so di quelli che hai cacciato, però c'è, sempre fermo qua, non l'ho mai toccato. Non so manco come ho fatto dentro io, ripeto, l'avevo preso, la Massimiliano gli era piaciuto e avevamo fatto uno scambio. E poi l'aveva data a te, perché tu stavi cercando un baracchino serio, tra l'altro con l'altro io non si vedete il corpo, che era nuovo nuovo, ed è buono quello, va bene. Oh bra, allora io ho fatto, ma mi dà, c'è scritto Galaxy Uranus, così è. Galaxy Uranus, sì. Vabbè, lo puoi dare in cambio del 48, va bene. No, che lui vuole un 120 cavi modificato, colto, ma le vari. Però io non l'ho redatto. E chi ce l'ha? Come chi ce l'ha? Ah, il 48 tuo, quello modificato. Io ne ho due modificati, però uno non lo, cioè in tutti e due non ho fatto mettere l'effetto di cotolo perché a me non piace, tant'è vero che avevo abbinato una camera eco esterna, allora andava così, capite, già l'hai sentita più di una volta. E l'altro invece era quello che usavo, il classico in macchina, solo con i 120 canali e i watt. Certo che sì, va bene, vanno bene, no, ma i 48 ti vanno bene, come vedi, io sto usando il 48, MB più 5 a metà, i toni ce l'ho a 1,5, va bene, si difende bene, per essere un baracchino normale va bene, i watt sono 8, quasi 10 modulati. Però azzorami, no, non mi sentivo, per quello l'ho zitto, non mi sentivo perché sono passati, deve essere due camionisti nel 5 e mi sento una dalla radio. Ma era 48, quello che avevo già sparato, quello lì era 48. No, quello lì è rotto, oggi, quello non serve a niente, questo è il mio omologato proprio, comprato nuovo da me, lo uso pochissimo, ti stavo dicendo poc'anzi, perché prende un sacco di colpi. Siccome ieri stavo provando quello di Massimiliano e ho lasciato il cavetto dell'alimentazione attaccato, allora ho staccato su e mi sono agganciato il mio per farlo girare un po', capito? Ma non si può usare in città, perlomeno qua a Sassari, forse tu lì a Porto Torres è diverso perché non c'è più nessuno che parla e non hai fastidi, ma qua che siamo due o tre gruppi, una parte nel 10, una parte nel 20, una parte nel 23, cazzo io questo non lo posso usare perché mi ammazza. No, non lo so se 68 e 48 sono usciti assieme. 68 ne ha uno coso, Massimiliano. Buono, bello, frontalino tutto nuovo, eccetera, però ce la fa i coperchi. Adesso glieli faccio io, ha detto che glieli mette nuovi, perché i coperchi sono vecchi, capite? L'ho provato ieri, adesso l'ho rimesso in macchina, l'ho rimesso nel cofano perché glielo avevo consegnato. Però va bene, sia il 68 che il 48 vanno bene oggetti, ripeto, però io nelle condizioni in cui mi trovo da qua, è un casino usarlo in città, perché prendo tanti di quei colpi allucinanti, capito? Eugenio, allora guarda, ti propongo una, io un 48 e un 68, per il 48 non trovo neanche se ti ammazzi, perché è la mia prima radio. Il 68 gli ho messo la mascherina del 48, praticamente originale mia, e l'ho fatto 120 cani più con la camera eco, se vuoi quello ti do quello, però il 48 non prenderò. No, il 48 io l'ho avuto e non lo voglio io. No, stiamo componendo lo 68, non lo ricordate. Il 48 questo non mi piace, non lo voglio più sapere. No, il 68 è preciso, identico al 48, mi sembra che però aveva qualche canale in meno, se non mi sbaglio, però questo è stato modificato, l'ho fatto fare 120 canali da Albino, e la potenza dei fatti. E poi io di mia spontanea volontà gli ho messo una camera eco nuova, che insomma la utilizzavo qua, ma adesso l'ho prestato perché c'era un amico senza, e quindi ho detto te controlla, fallo vedere, provalo, così almeno sentiamo. No, non è quello che sto dicendo io. Quello che sto dicendo io è là, c'è il pomello dei canali al centro. Ah, sarà il 500S allora. No, è l'Alan, oltre il 60 sono già qui. L'8001. In circa l'87. Poi ce l'aveva fatto il corso, ci si può. 8001 quello grande, che aveva qualche pomello in più. Sì, l'8001, se l'aveva Gigi era l'8001. Sì. Sono mezz'ora dicendo che l'8001. Ah, l'8001. Vediamo, sì, quello lì. Questo mi piace tantissimo, CP, questo mi piace. E quello va anche bene, è modificato giustamente, ma è sempre... Vabbè, io ti ripeto, io non l'avrei dato per la radio che stai dando tu. È dato per cambiare, questo mi piace, lo togliamo, mi piace. È bello, va bene. No, pensavo che stavi cercando il 48 o il 68, ho detto, se è, me lo prendo io questo qua, lo faccio io. A me piace questo cintura continua, è bellissimo. No, ti ripeto, io non l'avrei fatto a cambio, Ah, mi è prestato per cambiare così. No, è questo quanto lo stai vendendo? Non so quanto lo posso dare, non è una minima idea, tu? Fatto un'idea, fammi sapere. Guarda, nuovo è nuovo. Perché come l'ho comprato io, l'ho piantato qua, non sono, ti ripeto, le tasse per un cacciapite a fare. Ho fatto le connessioni al microfono, insomma. Come dite voi, l'ho puntellato lì, no, è nuovo, no, poi ne capisci più di me, l'ho pronto. Cosa? Il Galaxy Urano. Facilissimo, cosa? Non ha molti pomelli, è tutto a tastini, come il Ranger, più o meno la stessa cosa. Però è molto bel frequenzimetro. Sì, digitale, dai, va bene, dai. È giusto per... non era logico, ma va buono, dipende dal prezzo. Dal prezzo? Io non so quanto vale quella radio. Quanto vale quella radio oggi? 150. La galina canta. Basta cantare allora, ciao. Facci vedere. Ciao, ero di passaggio, sto entrando in doccia, buonasera a tutti, riprendo dopo. Vada bene. Ciao, ma si vedrà a dopo se coincide. Campa. E oggi quanto vale quella radio? Ma non lo so, è inutile che ti compri, io non lo so. Quanto è pagata tu? 120, quanto è pagata? No, non lascio pagare 120. Io ho pagato 200 euro la radio e 50 euro la metatore. 200 euro l'hai pagata quella radio? Sì. Ma con le BB più 5? Sì. Ho capito, quindi fai 50 euro di microfono, adesso 150, va bene, prezzo suo, più o meno, siamo lì. Sì, ma infatti io adesso non so quanto fa, il più 5 lo tengo. Le MB più 5 non lo avrate mai, guarda io ce l'ho nuovo, sempre dentro l'armadio. Le stacco la batteria, quando mi serve le inserisco la batteria e su che andiamo. Sta sempre funzionando, ce l'ho anni, l'avevo comprato da Gigi Vulcano, nuovo mi dentro la scatola e va molto bene, si adegua molto bene ai 48, agli Intec, ai Midland, a tutte le marche, anche con l'Elbex va molto bene questa. A me piacerebbe comprarmi il Galaxy Saturneco. Quello è un bel bus, quello per me è il bus è più bello che c'è, come baracchino, qualcuno chiama apparato, per me è sempre un baracchino, però è molto bello, per chi ha posto, io posto non ne ho perché ho tutti gli HF ed è un casino, è troppo umano, preferisco usare un baracchinetto così, messo un angolino e ciccia. Aspetta, che hai detto il Galaxy X, tu volevi il Galaxy Turbo, se non mi sbaglio. Sì, mi piace il Galaxy Turbo. Non metti, qual è il problema per te? Domani mattina vai dove sei tu, capito? Intanto c'hai le chiavi. Di quella sedia lì, ne prendi uno e te lo vendi, manco se ne accorgi. Non c'è bisogno di prendermi niente, io chiedo e lui dà. Appunto, prendi nel senso buono, non rubi, è attento. Tu prendi, lo vendi e poi li dai su. Dicimi, non sapevo cosa fare, mi ho venduto una radio, intanto ne è troppo. No. Andare così. No, domani devo scendere nuovamente al meglio, stavo piazzando una signora, una cassaforte, e vado, la finisco adesso. Oggi non sono andato da Marco perché stava, diceva che doveva piovere, quindi abbiamo slittato tutto il lunedì. Da Marco Scorpio? Ehi, già. E sta sistemando le antenne, a Vodora? No, una recinzione sto facendo, non andava bene con la recinzione, era in ferro e della fatta in muratura e c'è da finire, dai. È vero che lui ha fatto l'interno, potevamo ancora finire l'esterno, no, pensavo stava mettendo a posto le antenne, perché anche lui c'ha lavori da fare. Vabbè, sempre la valve. Tornando a mio padrino, se ne taglia i piedi e le mani prima di vendere quelle radio. C'ha tutte le collezioni, oggi, domani di radio. Vabbè, c'è problema. Io ho provato da Turbo su internet, ma devo... Qual è il Galaxy Turbo o il Galaxy normale? Il suo valore è 250 euro. Non so quanto te l'ha proposto, ma meno di 250 euro non si può pagare un Saturn Echo, che sia normale o che sia turbo. Ecco, ne hanno preso uno nuovo, ma nuovo, sembra di pacca, sembra la vetrina a 200 euro. Cosa c'entra T? Ma perché quello che ho fatto comprare Antonello io 150 euro, che poi l'ha comprato Marco a 150 euro da buttare via, quello gli ho fatto comprare io Antonello 150 euro, nuovo, infatti l'ha comprato Marco a 150 euro, ed è nuovissimo, è un grandissimo affare. È quello stavo dicendo io, mi sono sbagliato col prezzo, vabbè, comunque quello, figuriamoci, a 150. Quello l'ho fatto comprare Antonello io, poi Antonello si doveva comprare l'altra radio e si è venduto il Galaxy, ha fatto un affare Marco, stai scherzando? Quello l'ho fatto comprare io a 150 euro, nuovo, era un po' impolverato, mai usato, infatti c'erano i potenziometri un po' tutti, li ha tutti messi a posto, tutti lubrificati e se l'ha rivenduta, un grande affare, 150 euro, quella radio è nuova, e lì si sono così da abbigliare subito al volo. Certo che sì. Ma un profeta dov'è? Puntella! Oh, io ci sono sempre! Ah, ci siete? Cazzo, se non parlate parliamo sempre noi, Me a te, Eugene, se ne ha trovato uno, un Galaxy Saturn Turbo a 350, da vetrina. Leggi bene, tu. Leggo bene. Quel prezzo lì, io, vabbè, io ho quell'idea, no? Tu mi conosci oramai, io non spendo più soldi a quei livelli per comprare un baracchino. Se ti mostro l'elenco, cioè il 48 che ho comprato io, allora forse uno dei primi che mi aveva dato Gigi, a 400 euro, cioè non li spenderei mai più 400 euro per un baracchino, sempre baracchini insomma, che siano modificati, non so, 400 euro mi compareggio un HFT. Ma tu stai facendo la predica a me, sono stato io a dirle queste parole, ho detto aspetta, ma proprio per tu lì mi compro un HF, tanto è vero che ho aspettato e ho colto l'occasione al volo di prendermi questo brutto, ma perché? Perché era una base lì buttata da una parte che era mezzo smantellata, avevo il contadino nuovo, ho detto perché buttarlo se si può riparare? E poi mi sono messo anche un'altra idea, poterlo riparare con pochi soldi, attenzione, non spenderci 200-300 euro, hai capito? Quindi la mia idea è come la tua, spiaccicata e non cambia. Sì, perché non... chiaro che uno magari, sai, per noi che siamo un po' così, va anche bene, no? Te lo prendi, ma una volta, boh, io l'avevo preso, poi l'avevo venduto perché tanto non lo usavo perché prendeva tanti di quei colpi allucinanti. Mi sono comprato l'Ara 48 nuovo, normale, capito, senza essere nulla, e mi sono avanzati anche soldi, ed è questo che sto usando adesso. Però a continuare a spendere soldi così non fa, a meno che non ce l'hai già, lo fai modificare perché ti piace, perché è un sistema che piace, come Massimiliano, Gigi, qualche un altro che le piace. A me piace, però non lo posso usare, non è una cosa che posso usare, capito? Avanti Eugenio, ci sei, se no le prendi tu Daniele. No, ci so. Comunque sappia che io ho parlato in prima, poi chi vuole si faccia avanti, non è un problema. È quello che sto usando adesso, è nuovo nuovo e niente. Anche le grafiche sono penose, non c'è niente da nascondere, niente. Ok, comunque Daniele. Gava, ci sono, mi sono spostato un attimo poco fa. Anda bene Mela, che qua la friggitoria si sta sfreddando. Oh, mi sto allontanando la radio, quindi, va. A dopo, ho fatto le prendere da Gianni, rientra. Ehi, già stavo ascoltando questo mercatino in evoluzione. E niente, l'amico mio ha deciso a comprarsi la radio nuova e quindi già la troverà sicuramente. Sì, già la trovo. Tu ti sei spostato a niente, ovvero sul 22? No, mi sono spostato proprio fisicamente, non con i canali. Se c'era combattimento zero poco fa, pensavo che tu che stavi accordando da qualche parte. No, qua, zero, riporto a zero, non c'ero proprio qua. Vabbè, vedi qual è il problema. A me piace usarlo ogni tanto, adesso l'ho agganciato perché ci avevo il cavetto da ieri di quello di Massimiliano e lo sto facendo andare perché esce molto bene. Ultima ricezione anche, c'è la colonia nuova, autoparlante suo nuovo, la radio nuova, anche per farla andare un po'. Però basta che si sposti qualcuno in un altro canale, battimento a zero, capito? Per dire, Eugenio non lo sentivo più, quindi sono rimasto zitto. Va bene. Già, mercatino. Sono cose che piacciono, però vengono un sacco di lampa a comprarli. E alla fin fine non ne vale più la pena, capito già? Certo. Oggi compreso. Quindi praticamente Tino ha il suo fornitore di radio di fiducia, così è. Lui apre la cassaforte e si ubriachi i biasi. Tino c'ha un negozio, non radio, c'è un negozio, ce ne saranno forse più di 1000, sicuramente. E tutte belle, serie per serie, ma quando tu hai un amico collezionista è chiaro che le radio sono, ci sono tutte, lo dico perché lo so, quindi è così. Però a vendere non ne vendiamo alcuna, assolutamente. Lui ha la possibilità di provarle, di usarle perché è lì, quindi, capito? Va bene. Avanti, genio! Io farei anche il cambio senza soldi, non mi sembra niente di soldi. Farei anche il cambio per provare di nuovo, così sinceramente, per cambiare il radio, tutto lì. Se ti ho già detto, mi sembra ne abbiamo già parlato di questo, se devi investire del denaro fatto bene, come la penso io, e per carità poi ognuno fa quello che piace, investi 350 euro, 400 euro e vai a comprarti una radio simile a quella che ho io, un 440, un 140 che costa di meno, un 680, con un bel MC60, non hai bisogno di niente perché è una radio che non ti va di rifare 27, ti metti a ascolti il mondo, capito? Però hai la possibilità da 0 a 100 watt, hai qualsiasi cosa che ti piace la puoi fare, ed è un investimento, perché io non darei mai una radio del genere per comprare una radio corto, per comprare un Saturneco, per comprare che cosa, niente, quella rimane. È vero anche che mi piace usare i baracchini e li uso, però un investimento serio lo fai con una radio seria, non alla parte di Napa con Paragosa, un altro baracchino. Scusate, c'è una bassa. Non è così come dici tu, la pensi così, c'è anche piacciono i baracchini, là. Ma stavamo parlando di questo, ho detto poco fa, forse tu non c'eri, a chi piacciono i baracchini modificati e fa un investimento, perché le piace, ho citato anche a te, ho citato a Gigi, ho citato a tante altre persone che le piace fare quel tipo di attività, ma a Eugenio che non era fuori in onda, diciamo, a volte un canale 45, che cosa deve investire? 350 euro per un baracchino modificato, un 350 euro si piglia un HF, questo dettomi. Non è detto che, buonasera a tutti comunque, non è detto che con 350 euro si deve per forza comprare un baracchino modificato, là. Ci sono anche baracchini seri per quella cifra, capito? E mai dopo un Galaxy Saturneco, Guido, come si chiama, quello Turbo, no? Quello che c'ha 100 watt, 80 watt, e gli hanno sparato 500 euro, no, l'ha visto, ho detto con 500 euro, lì che è nato il discorso, ho detto con 500 euro, gli compri un HF e se lo mette in tasca il Galaxy Saturneco, capito? Cioè quella spesa lì io non la farei mai, non posso andare a comprare un Galaxy Saturneco a 500 euro, quando con 500 euro mi comprerei giù una radio superiore, capito? Quello è il discorso. Eia, chi è che vuole entrare? Avanti. Anto, stai riuscendo male, tu sì. Anto, tu. Ma c'era qualcuno sotto, Massiglia? Sì. È uno spagnolo che sta dicendo ora, ora, ora. Non è detersivo, no, né ora né dasci, beh. Capito, Massimiliano, è lì che è nato il discorso. Stavo spiegando Eugenio questo. Va bene, va bene. Poi mio Eugenio sta vendendo l'Uranus. Infatti l'ho chiesto, quanto si vale quell'Uranus? Lui mi ha detto che l'ha pagato 200 euro. Quanto? 200 euro ha detto che l'ha pagato. E allora si ricorda male. Si ricorda molto male. Infatti, siccome so da chi l'ha comprato, mi sembra strano che l'abbia pagato quella cifra. Capito? Perché noi avevamo fatto un cambio, mi ricordo. Però tu non l'avevi venduto quella cifra, hai venduto molto meno. Allora, l'hai pagato quella radio 150 euro. E poi ti avevo dato l'MB più 5, altri 50 euro. Ma non l'hai visto là, 200 euro con l'MB più 5. No, tu mi hai detto un sì, tu hai detto 200 euro alla radio ho pagato, e io ti ho detto, mi sembra strano, avrei pagato 150 euro alla radio e 50 euro al microfono, siamo a 200, ma la radio l'hai pagata 150 euro, adesso che quella radio è svalutata, la puoi vendere a 120 euro. Aspetta, tu me lo fa meglio, ma col microfono, cioè tu sì col microfono, quindi 150. Okay, ma io non c'ero in radio poco fa, quindi non ho sentito, capito? Dove c'è tu il microfono? Sì, però io poco fa, se tu hai detto così, io non c'ero in radio, capito? Quindi infatti ti ricordi molto male. Ecco perché ti ho risposto così. Oh, Massimiliano, ho girato leggermente la direttiva stamattina. Sono salito su. Il segnale è salito? 9:10. E ieri era Santiago 6? 7. Hai visto? Perché era spostata un po' troppo verso l'est, adesso è proprio verso la spunta, se passa in mezzo per Tintino. Va bene, va bene. Oh, Daniele, vuoi riprendere? O riprendi tu Gianni? Ciao Massimiliano, buonasera, ben sentito. Ciao Daniele, non sapevo mai come ce l'avate voi, figurati. Perché sono entrato così, gamba tesa, e quindi non sapevo neanche che ce l'avate. Ciao Daniele, ben ascoltato. Allora, chi c'è ancora poi oltre te? Gianni, lo profeta, ma si è allontanato che c'è una bassa. Ah, ok, no, va bene. Dai, riprendi. Pisce il coca di. Pisce il coca di due, vai. Mi Italia, che c'è a mente. Va bene, perché tu stai vendendo il giro alla radio? Io non l'avrei data. No, vabbè, per cambiare la radio, tutti, non è che sarà domani o comunque, ecco che è già quasi giunta, e vabbè, compratene un'altra e quella lasciatela, scusa, perché te la vendi? Cioè, non lo so, poi vedi tu. Vabbè, non è fatto di due braccia, non mi ricordo comunque. Sempre bello avere la radio, Jack. Anche se vuoi ti propongo un cambio, ti do un cerchione di bicicletta e tu mi dai isso. Ti do un'altra marcia, mi dai, sì. Va bene, però un'altra marcia me la dirà, una manta con i cuscini. No, ma che esagerato. Si lavora e si lavora sulla trattata. La trattata è moleggiata ancora. Sì, e non fa l'uomo. Vabbè, dai, ci penso. Vediamo. Tu, Massimiliano, già propongo. E allora, appena detto, io propongo di tenersela. Con 250 euro si prende un Saturneco normale. Tanto lì. Il turbo c'ha solo 100 watt. E c'ha... fa da 28 arriva a 30. Boh, dai, Galaxy nel Saturneco normale non cambia nulla. Città d'Alfiera che diventa gialla, poi che fa di schifo. Io con 200-250 euro mi avrei preso un bel Galaxy Saturneco, e in più gli avrei accoppiato un linearetto da 50 euro. No, con 300 euro c'hai 100 watt, sino di più puro, e un bel Saturneco. Ah, io ti do un 48 modificato con camera eco più 50 euro. Cosa? No, come intendi? No, non ho capito quale apparato lì. Ti do un 48 modificato più camera eco e 50 euro e poi mi saluti anche, grazie. No, non ne voglio 48, ho avuto una brutta esperienza, no, non ne voglio più 48. Allora mi salutare più. Dove lo vendi oggi quel 48 per pezzi di ricambio? Cosa? Quel 48 messo male, quanto me lo vendi per pezzi di ricambio? Tu ti addio, se ti ancora, non me lo vendi, ti addio. Ma ti l'ha dito, dove? Claudio ce l'ho da te. Claudio ce l'ha. Ma tu hai esaurito i giri? E quella cosa siamo alla casa. E sempre quello lì ce l'ha tenuto a pezzi di cambio. Cosa me ne voto io? E allora niente, già. Massimo, siamo una cosa. Ehi, vabbè, non lo sapevo io. Se te ne abbiamo parlato stamattina, ti ricordi che te l'ho detto, Massimiliano? Che stavamo parlando di coperchi. Hai giù compreso, ma non ho capito chi ce l'ha. Non te lo dico qua. Ah, ok, va bene, non mi interessa. Va bene così. Se quando mi chiami te lo dico, qua non te lo dico chi ce l'ha. Andare. Sì, a te lo devo, una fai il capo. Vabbè, no, non mi vale fare nomi. Mi ha detto da Samiro, me l'ha fotti nuda, io gli ho lasciato. Se mi dice mi riprendi, te lo io me lo sarei ripreso, capito? Siccome lui li ripara e quindi niente. Ma... sì, vabbè, no, hai ragione. Dice che è un primo che non si trovava più brutto, non so. No, hai ragione. Capito che ce l'ha. Non solo il trimmer oggetti, ricordi che avevo parlato anche del circuito stampato, era tutto bruciato, tutto vato, cazzo era circuito stampato, Massimiliano, mancavano vite, cazzo gli hanno messo l'attac, quindi non si può manco staccare perché praticamente lo spacchi. Ed era tutto in corto, tutto. Poi ti ricordi, ne avevamo parlato oggetti. Ho detto, ma cosa vuoi mettere la radio? La Savia, ma c'è una puta a me, se no me l'avrei presa io, gli ho lasciato. Hai ragione, me ne ho dedicato. Forse non l'avrei presa io a questi ricambi, l'avrei tenuto a questi ricambi a casa, capito? Qualcosa di buono c'era, però, tu devi dire, arrangiati, non me l'ha fottuto da me. Io ce l'ho nuovo, l'ho 48, figurati, però avere dei pezzi di ricambio di queste radio qua va sempre bene, capito? Capito, Massimiliano? Sì, va bene. Non mi serviva il commutatore 40 canali, va bene, comunque. Avanti, Piscia Cocadi. Ciao, Massimiliano, buonasera. Oia. Stavo per dire una cosa, no, vabbè, stavo rispondendo a un messaggio al telefono. Massimiliano, questo è il mio 1048. Come? Ho detto che questo è il mio 48, differenza c'è dalla modulazione di ieri. No, niente. niente. Ragionito, c'è uguale, 68 e 48 sono uguali. Vabbè, questo l'ho abbassato leggermente, ce l'ho a 5 la preamplificazione. Gaffa gaffa. Più tardi attacco quello di Daniela, a vedere se ne farà due radio. Guarda questa invece, che sono agganciato, Massimiliano. Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 9, quasi il 20 fai. Scappa, ma se ne è sceso tanto, eh. Adesso è a 11, prima era a 13, 14. No, non ti sto seguendo, di che cosa? Qua c'ha lo strumento, dai, era intorno ai più di 100 e passa watt, dai. Ah, quindi le valvole non sono buone. No, e si sta sfreddando, capito? Come è rimasto un po' di tempo che era in stand-by, adesso piano piano iniziano a salire. Infatti è già a 11 adesso, quasi a 12. Ho capito, ho capito. E con quanto ci stai entrando dentro? Guarda, Massimiliano, adesso ho staccato il rosmetro perché quello mi ha rotto le palle, sta dando i numeri. Ce l'ho sempre a ore 9 la manopolina dei watt. Ok, ok, va bene, va bene. Quindi c'erano intorno ai 2 watt, giusto? A mano mi lamento, più o meno ce l'hanno lì, 2 watt e mezzo. Capo, perché qua, questo qua segnava 2 watt, però non è preciso. Comunque è buona la radio. Sì, non distorce neanche qua in vicinanza, non distorce, vabbè. Quindi questo va bene, ma si vede lo stesso, no? Ehi, alla grande. Ho regolato come l'avevamo messo. Toni a 1,5 e preamplificazione a 5, dai. 5, sì, va bene. E vai fare due chiacchiere, già va bene anche così. Tanto. No, ma ho lasciato il cavetto agganciato ieri all'alimentatore, no? Del 68, praticamente ho usato quello mio, del 48. E quindi ho staccato il tuo, ho attaccato il mio per farlo andare un po', capito? Avanti, Lubrefetta. Bene meda, vai col mercatino. Dai OG, pigliati il suo Galaxy, Super Galaxy, Capitan Harlock, Mazinga, dai. Sì, me lo prenderò, ma non cambia, me lo prendo. Il turbo, quello che c'è a me. Ma puntella però, compro, vendo, scambio, puntella. Io si trova, dalle 300 in su. Se non via uno, Antonio D'Alessio, che... Marco, quando sei venuto a stare vendendo, l'elicottero l'ha preso per fare in fretta, era 150 euro, uno spettacolo. Quello ve l'avevo fatto comprare da Antonio, io ti ricordi, Massimiliano? Nuova. Già, lo so, cazzo, grazie. Faccio mandare due io, i ghibi, a usare, di carina, no? Ma infatti, tu hai detto a me, ma Antonio era andato subito e se l'ha comprato. Cazzo, e poi l'ha rivenduto 150 euro. Bella radio quella, nuova era, era un po' in polvere, dai. I pomelli facevano un po' il rumore, i potenziometri, però l'ha lubrificato e andava alla grande, andava, capito? Vabbè, quelli sono affari, mio Gio, bisogna stare attenti a queste cose. Datemi 5 minuti, arrivo subito, riprendi Daniele. Sì, che c'è Tino anche, mi sa, vero? Stavo facendo cosa, ha detto, Ciao, riprendo io, dai. Cava Roger, e quindi hai visto le foto poi ieri, Massimiliano? Quel giocattolo lì, capito? E niente, però non so ancora quanto lo posso tirare questa storia. Se non c'hai il rosmetro, stai attento, quello ti dico io solo. No, non quello, no, i watt stanno così, perché se li aumenta appena poi va in saturazione. Capito? Perché adesso se ne... Ora, adesso è sceso, Guarda adesso, Massimiliano, cosa è successo. Niente. Vabbè, dico, la radio, sempre buona, È buona. Come ce l'hai il Mickey Game? Tutto come l'abbiamo lasciato l'altro giorno, a ore 13. Aumenta un pochino. Aspetta. Ora, guarda un po'. Adesso è aumentato ancora, prova a aumentare un altro pelino. Guarda, ore 2, ora. Vai, portalo alle ore 3. Ora, sei coppia già tutti i noghi, ora. Stai portando tu il Mickey Gain, lo stai toccando il vate, giusto? Sì, solo il Mickey Gain sto toccando, Massimilia. E allora cosa devi copiare? Sta aumentando la radio, non è che stai toccando il vate. Capa Rogero, va bene, adesso è 130 quasi. No, è la radio, non va bene. E oggi com'è la radio giù da te? Guarda un po', UG, 1, 2, 3, 4 e 5, cambio. Va bene, va benissimo, solamente leggermente compressa. Si sente che sta spingendo parecchio la radio. Se abbassa un pelino è perfetta. Ma io questa compressione non la sento, penso che mi fidi di te. Non ho capito perché c'era lo spagnolo che lo tappava. Ho capito, solamente abbassare un pelino cosa? La radio, perché dice che è compressa? Io non la sento compressa, E sono anche più vicino. Lubrofei, tu come la senti? Compressa? Ma è ancora ascoltabile, va bene. Cazzo, se di vicini vuoi. Cazzo, il portatore si è compresso, non lo so. Gaffa gaffa. No, è bello, l'ho rimessa come era prima, Era quando... lo rimedo di quando... mi diceva che era compressa. Gianni. Adesso è buona. Ho aumentato solamente la radio. Ognuno c'ha il suo orecchio. Oioia, va bene, perché devo trovare il punto di saturazione, diciamo, capito Massimiliano? Io ancora ho capito in quanto la posso spingere, se devo aumentare il radio, diminuire gli ingressi, aumentare le uscite, capito? Ascolta, adesso i watt sono alle ore 9, prova a abbassarli un pelo. Aspetta, Guarda, un pelo abbassato. Un altro pelino? Guarda. Ora, com'è? Così ci sono anche dei picchi positivi. A Eugenio la facciamo ascoltare che è più lontano. Eugenio, com'è adesso? È un passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Quello è una cosa perfetta così. Non so voi, ma il mio orecchio è perfetto. Per me può lasciarla sempre così perché è perfetto, poi vedo con voi. Sì, perché così la radio è anche aumentato, vero? Ma un pelino, è perfetta, per me è perfetta. La giusta amplificazione è perfetta. Lubrofei, a te com'è? Un fermo e sottoscrivo. Puntella. Solo adesso mi sono sceso in watt del gingillo. A quanto? Cosa so, 100... prima era quasi a 100, 150, sono 100... No, qua sto dicendo. No, 120 sono. Vabbè, cosa ti ne affutti? Adesso prova a fare giusto la prova, sgancia solo e non toccare niente della radio. Sgancio? Mi stacco? Sì, prova a sganciare, a vedere solo come la radio. Guarda un po' com'è Massimiliano, sono in stand-by adesso. Tu fai da 9, allora, così fai, 8 a picchi di 9, quasi 10. Quando agganci fai portante muta 9, 9 e 20. E oggi così che ha sganciato, com'è da te? Guarda un po', oggi 1, 2, 3, 4 e 5, la Peppina fa il caffè. Allora, 6 a 5 da insegnare. La radio è un modo più basso di poco fa. La radio è più bassa. Beh, si è sganciato. C'è lo spagnolo come mazzendi, Eugenio lo tiro per i ciuffi dei cappelli. Perché poi lo sanno che stiamo facendo questo locale, no? Continuano a parlare, capito? Anda Benemeda, cava, aspetta che lo riattacco, così si. Se no questa cosa si blocca. Attacca. Non altro, perché come a tempo fermo, cioè il relè che deve essere mezzo sporco. E quindi se non sgancia bene e non c'ho più ricezione, quindi devo dare il colpo di portante per farlo sganciare. Aspetta che accendiamo l'elicottero. Vai. Ci manca tutti questi fatti, cosa ti fa? Cambio. da Massimiliano. È buono, buono. Ti ha chiesto Eugenio se puoi aumentare l'eco un po'. Aumentare l'eco? E qual era l'eco adesso, Massimiliano? Il secondo grande, così è. No, il secondo grande è il rifighini. Il terzo grande sono i watt e il terzo piccolo è l'eco. Ma lo devo aumentare, va bene. Eugenio voleva sentire l'eco, ma non lo senti Eugenio? Sì, no, sì che lo senti, è bello. No, aumentava bene. Ah, aumentava, aumenta. Cambio. Guarda un po' Eugenio. Adesso la sveglia è ore 2. Dai un troppellino, portalo alle ore 3 e fa un passaggio. Cambio. Bello, adesso puoi andare a cercare la mezza. E poi sei qua, che. Dai fratelli. Mettilo di nuovo alle ore 2, Daniel. Guarda un po', Massimiliano, cambio! Una bomba, È bello, bello veramente, gira veramente bello la radio. Mi pare mi addorre, dai. Ma agganciato c'è, Dani? Ehi, ma là! L'agganciato ti fa una modulazione spettacolare. Guarda, wow, abbiamo regolato un po' la radio, abbiamo aumentato qua. E ha passato un pelino i vatti della radio in ingresso. Lasciala così, puntella. Cava Rogero, va bene, già gira tutto qua. Sì, ma anche normale è una bella radio, capito? Cazzo, normale è una cannonata. Perciò io un microfono, diciamo, quale stai usando, il tuo Midland? Quello nero uguale al tuo. K, metti l'altro a vedere, e senza toccare niente. Aspetta, dammi un secondo che lo attacco. Non mi piace, Massimiliano, l'ho già sentito io. Quello ci vogliono due mani a prenderlo, però è meglio. Quello della Metternich sta dicendo. Quello spinge di più con quella radio. Ehi, ho provato anch'io. Quando ce l'avevo qua, ho messo il mio della LAN 48 originale. Non serve a nulla. Caparrose, no, lui adesso sta usando un Midland come potrebbe essere il CTE, là. Midland, quello vero, là, come quello che ho dato io, mi. Quello dell'Amo International, su quella radio li spinge ancora di più. La grande. Guarda un po' cosa dice. La fa leggermente un po' cupa con la tua modulazione. Te l'ho detto, Daniel. Come ho detto anche l'altro giorno, Massimiliano, ha detto, cade il microfono perché c'è un abisso. No, Daniel, rimetti quello che c'era, che va molto meglio. Pare che sei Fabitelli dentro una cicca. Allora, questo qua, la radio spinge molto di più con questo. Fai una cosa, guarda se c'hai un pezzo di Scottex, mettilo davanti così e modula. Un pezzo di carta igienica. No, te lo buono in culo e esci meglio. Che cazzo che sì. Si mette di mutare direttamente. Aspetta che ero sganciato col microfono, mi stavi dicendo, cosa mette lo Scottex sull'altro microfono? E su quell'Amo International, davanti, mettile un pezzo di Scottex, qualcosa. Già esce il cupo volutissimo, gli mette lo Scottex, se c'è ancora più cupo. No, una prova voglio vedere oggi. Aspetta, dammi un secondo e vado a prenderlo. Sì, un pezzo di carta igienica andavano a testa. Puntella, puntella. Comunque, con quello Midland la radio c'è perfetta. Con la sua modulazione sembrano abbinati al 100%, vero, Lubroffè? Sì, l'ultimo che ha provato il microfono è una cicca. Un paggiolo, pare che fa vedere 30 un paggiolo. Aspetta, cazzo, ma tu subito sei precipitoso. Puntella, OG. Devi puntellare sempre però. Ma tutti questi sciopo su Dorra. L'aria di mare che li fa male oggi. Oh, yeah. Siamo passati al mio mitico. Che sciugaz. Quanti gente andrà alla televisione? No, appena. E 45 c'è il casino? No, non c'è niente. Io come faccio il tratto? Se qualcuno di voi gli ha risposto. Io? No, io non c'ero. Neanche io, oggi, non ci vado quasi mai, io. Quando va Massimiliano mi metto a ascoltare e basta, però non ci vado. Guarda un po' adesso, che è successo? No, no, mo cannino, mo. Buttacelo. No, non buttacelo. Allora, quel microfono le facciamo una modifica, ma a me già te lo faccio io. Allora, lì ci vuole una cosa, là, per uscire bene. Già te lo faccio io. Era una battuta, in senso metaforico, non agite da un pazzo davvero. No, no, in culo buon in Dio. Prec, prec, prec. Avantici, avantici. Buona tarde, mi affanno. Buona tarde a todos. Ma tu vedi, Gianni sì, oggi che pare di sentire la messa. Fa me dall'italiano che già lo comprendiamo poco. Buonasera a tutti, già vi do più ru. Buonasera Gianni Rubrefetto, cioè Gianni do più ru. Sento casa tua solo. E tu da dove stai modulando? Inizio a prepararmi, così me ne esco una mezz'oretta col cane che c'è ancora uno straccio di sole. Dai, ci sentiamo dopo ragazzi. Gianni, Lubrofetta, riprendi e fai girare tu, dai, a dopo. Dai, riprendo io che mi devo allontanare 10 minuti e vado a prendere la moglie al lavoro. Ci sentiamo dopo. Eia, eia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Buonasera, doppio room. Ciao Gianni, io saluto anche a Claudio e a Daniele, dai. Sono passeggiato, ma io vado dopo, mio cugino, mi servo dalla dottoressa si va adesso. Andate bene, Gianni Lubrofetta, riprendi e fai girare. Vabbè, ok, dai, sono in carico del banditore. volevo dire una cosa su quell'altro microfono, vabbè, mi sei fuggita. E niente, vabbè, avanti Massimiliano. Positiva, ciao Daniele, ciao Claudio, a dopo, là. Gappa Brioscia, vai, io sì, io già sono qua. Sto guardando un po' di apparati. C'è un nome? Apparati a Torra, Pettinetti. Si sta vendendo la radio, vedi già, se ti interessa. Chi? Eugenio. Allora, Eugenio, c'è una Galaxy Saturn Echo con Echo CB stazione base, 250 euro, adesso te lo mando. Io ho visto già tutti, io ho visto già tutti. Quello c'ho subito? Io sono sempre il stesso, io ho visto tutti. Cazzo, è bello questo Saturn Echo, nuovo, nuovo. Ma quello lì mi sa dato non ha il frequenzimetro. E perché dice Galaxy Saturn e non c'ha il frequenzimetro? Mi pare strano. Ah, perché un Galaxy SSB con Echo. Questo ha sbagliato scrivendo. Io ho visto tutti, li ho visti. C'è anche uno che mi tira un giallo. Mi tira il barattino giallo. Sta dando il Galaxy e ritira i barattino giallo. Contatto a vedere, tanto per contattarlo non si paga. Mi. L'ho già chiamato e non rispondo. Si prova. L'ho chiamato più volte, ma non risponde mai. Mandagli una mail, mandagli una raccomandata con la busta verde. C'è anche un bel S9. Quant'è il tuo budget? Io che ti faccio fare un affare. No, il budget non ne ho. Ho scritto sì, mi sta prendendo questo, poi ma due non me ne serve a casa, non le posso usare. Ah, ok, no, va bene. Poi quando sarà altro, io prima devo fare quello di questo. Mi dai? Quello ce n'è uno uguale, non so se l'hai visto, è nuovo, quanto è quello? E lo stanno dando a 120 euro. Mi dai quello lì, più mi aggiungi 200 euro, ti do il DAC. Mi dai? Il DAC. Cos'è il DAC? Un armadio, un cantarano, è un baracchino, il baracchino più grande al mondo. No, non mi interessa. Gianni, dilli cosa ci perde. Meraviglia, meraviglia. Se mi non è da matta, che mi tira giù da 50 voci, non te lo dai, perché so che non glielo dai. Cazzo di gente, se tu vedi il DAC te ne innamori, mandali una foto a Eugenio. Ma io sono sicuro che Eugenio invece lo rimbiate, c'ha la radio. Vai che quella radio non si muove da qua, ha risposto Gianni, non è appresso quella radio. Quindi già non rimbiate, no? Dai, ma ci vediamo. La radio così bella, che è troppo grande, è troppo ingombrante, no? Non è una radio. Vabbè, lui già se la mette nella scrivania, mi le attacca l'MB più 5, un bel lignaretto e due andenni. Già me l'hai mandata la foto, è bella, sì, ma non mi piace. Beh, questa la... Vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti. Ognuno c'ha i suoi gusti, però è... Dai, è bella, è bella. Vabbè, vado a portare il cane, ragazzi, dai. Puntella! Puntella! Sì, sì, quel DAC è spettacolare, meraviglioso. È proprio un bijou. È proprio una chicca. E in mezzo non rimbiate, rubani Guido tipo focaccine. Noi ci abbiamo pane grosso. Però faccio i denti, papà si chiama. In gallura lo sai, mentre lo chiama rubani grosso. I chiodi. Comunque oggi c'era anche un altro di Saturnecco. Vendo radio CB più antenna più cavo, prezzo non trattabile, 250 euro. Ma so, ho visto tutto, ce n'è anche uno a 150, però dice che una radio già di 30 anni, non so se funziona, etc. stato fermo per anni e anni. Li ho visti tutti. Ma tu sei proprio puntato per il Saturno? No, era così. Mi era venuta voglia di andare il Saturno, perché l'ho già visto io il Saturno. Tanti anni fa l'ho, quello col frequenzimetro. E volevo vedere il Galaxy Turbo. Anche io l'ho avuto, ma l'ho venduto Gianni. Io invece l'avevo venduto. Non sai quanto mi è durato? Una settimana. Anzi, bugia. Mi è durato 3 giorni, perché poi quel Saturneco che mi ha venduto Gianni, che era nuovo, avevo fatto cambio con coso, con Giampaolo Silvestro. Mi avevo dato il Saturneco, lui mi aveva dato questo magnum chiuso in scatola. Ecco, allora ce l'avevo io quel Saturneco lì. E io a me me l'avevo dato Giampaolo. E poi quello lì è andato a finire a Gigi, poi l'ha modificato. No, prima era stato rotto, non funzionava più, non so cosa aveva cambiato, l'hanno fatto ponte. Poi Gigi l'aveva aggiustato. Però io, vabbè, quando l'ho dato a Giampaolo Silvestro era come me l'avevi dato tu, perché io l'ho tenuto 2 giorni o 3 giorni massimo, capito? Poi una mattina ero sceso a trovarlo e gli ho detto, ma così mi, uno in battuta ha detto, dai dammi quel maglia Cerove che ti devo Saturneco. Cazzo, non l'ha staccato, mi ha dato capo, tutto qua, con la chiesa scala, la prossima volta che scendi mi porti il Saturneco. No, Giampaolo, cosa stavo dicendo? Comunque il Saturneco 250 è troppo caro, 200 euro va bene, ma 250 è già caro. Allora, Giampaolo mi ha dato Saturneco, poi io gli avevo ridato e lui mi aveva dato forse il format 777, lo conoscete voi, non me la metto. Sì, lo conosco, è bene pure. Qual è? Quello tipo Galaxy? No, è veicolare, è grigio con una banda rossa. Esatto. Ma io l'avevo tenuto lo stesso poco, era troppo grande, però adesso me ne tengo a voi. Già, non è caro, e i prezzi purtroppo sono alzati, cioè sì, cioè queste radio stanno prendendo valore, capito? Non è che adesso trovarlo per 200 euro è una fortuna, se no il Saturneco è 250 euro. Io 5 ne ho avuto sempre 200 euro, e li ho avuto tutti sempre 200 euro, poi se è aumentato il valore, non lo so, sono dei begli apparati comunque, vanno bene. Ma io l'ho dato perché, la verità, se non c'è il posto, se no è un bel rasone, è un bel grande. A me non mi dà nessun fastidio, perché io c'ho già visto dove ce l'ho là. È dentro cavo ripiano là, è perfetto, non mi dà nessun fastidio, c'è un po' da me. Vabbè, che poi questo è perfetto, funziona che è una meraviglia, quindi non è che abbia tutta questa necessità di avere i Galaxy. E vabbè, ma a te ti piace anche un po' cambiare, là. Adesso ce l'hai già un bel po' di anni quello, no? Sì, qualche anno ce l'ho. Però era così dato per cambiare. Però guarda, soddisfattissimo di questa radio. Perfetta. E nuova anche, oltretutto. Vai, Rubrofè. Cos'è, Regge? No, questo è il Galaxy Uranus. Ah, ho capito. Guarda, 26 a 30. La sicurezza continua. Insegna la frequenza del frequentimetro, così? Sì, sì. E i canali non li dà? No, è a tutoria continua, non li dà canali. Ah, ci sono quelli che danno, c'è il canale che ha frequenza, capito? E dopo? È un po' una rotta di colle, perché bisogna ricordare sempre la frequenza. Beh, una volta ci fai la cosa è... vanno i 10-10, se sei contrario, ma... Io c'ho il Ranger così. Però il Ranger puoi eliminare il frequenzimetro per mettere i canali. Oppure, adesso non mi ricordo se puoi mettere anche frequenzimetro e canale, ma non me ne ammetto. E arriva fino a 30 o a 32, lo stesso. No, anche per questo è una bella radio. Beh, la state sentendo funzionare, va giù l'unica. E niente, è una bella radio. Poi lo fanno qua. A me come me l'hai data, l'ho messa qua, nella scrivania, sto. Ma sto lì a toccare, a fare. Sì, no, ma va bene, Eugenio. Mi sembra che l'avevamo portata su un po' di vatte, giusto? No, perché questa è il passo regolato. Ma dall'interno non le avevamo aperto tutto il timbro, ho sbagliato sto buco. No. Avevamo guardato, però non l'avevi toccata, perché non eri sicuro del timbro. E io avevo detto no, non toccare, lascia andare. Ah, hai ragione, oggi. Però va bene con la radio, a voglia. Va bene, funziona bene, perfetto. Era solo la voglia di cambiare, quando si crea la voglia di prendere una cosa che la vuoi così, tanto fai alla fine non si fa un cazzo, però la vuoi così, la fate sicuro che vuoi. Infatti, no, già è bello a cambiare oggi, a voglia. Tu non ce la devi fare magari, ti trovare anche un piccolo aiutino, capito? Sì, lo farò subito, lo farò. Tanto in macchina ho il 3009, l'uomo, quello l'ho comprato la TV, non mio. L'ho visto. Già va bene. Avanti, non Rubrofetto. Vai, che non riprende Rubrofetto. Dimmi già. Ho detto 3009 con quanto già esce. 2009 esce, quello lì esce 20 passi da qua. Ah, buono. 20 passi da là, casa così? Sì. Però poi ne vedrà. Già va bene, allora. Ma il 2009 è bello, adesso non lo so, questi gruppi come sono, se sono uguali agli altri, se sono... non lo visto. Poi c'è questo Jump che c'è su. Joe Fix, una cosa del genere. No, ci sono, c'è un modello americano, quello italiano c'è con 5 fa. Io ho trovato un modello americano. Cavagana. È bello, poi c'è anche il modello quello col frequenzimetro del 2009. Sì, è bello. Cazzo, è bello, c'è tutto il frequenzimetro blu. C'è un po' che adesso si stanno un po' da fare, ma prima non c'era più. Vabbè, qua in Sardegna là sappiamo lì che siamo arretrati di 20 anni. Vabbè, ma le case, proprio le case avevamo chiuso il corso. Adesso si stanno di nuovo da fare perché hanno visto che fanno ci dice ancora, si stanno costruendo ancora. Ma un periodo proprio si erano fermati anche con le costruzioni. No, sta tornando il nuovo CP, non so perché. Perché molti hanno provato quella cagata di CP Toy della Milla e stanno tornando tutti ai CP perché è venuta a voi. È una cosa fredda, diciamo che per chi non vuole mettere antenna in macchina va anche bene. Però ti scarica il telefono, eccetera, eccetera, ti serve per altro, intanto lo puoi usare. Te lo scarica. Fai meno la cagata. È una cagata pazzesca. Lasciatele. Quello va bene, mi guarda, te lo scarichi, sì. Un gruppo di amici che stai viaggiando in macchina, così, uno con l'altro, buba. Solo per quello lo puoi usare, ma non per parlare così, ma per me, io parlo per me. Un secondino mi allontano giù, va bene, poi ripeto. Non ti piace. Avanti. Un profe, si è finito. Si è allontanato. Dopo l'hanno ripreso quello lì, che vado a vedere, che anche a lui piace tanto lì. Era l'ultimo che aveva, era proprio l'ultimo. Ho trovato il negozio Radio Pitte, però c'ha tante cose, mi aveva detto se mi aveva richiamato, se mi serviva qualcosa, che aveva un sacco di cose. Però come CP era l'ultimo, mi è rimasto l'ultimo, modello americano. Poi agli anni, Radio Twitter. Ah, buona sorpresa. Non gli puoi farla vedere. Quando ho preso io avevo anche le mantova, aveva un po' di mantova da femmina. E che mantova bene? La mantova c'è? Il mantova che ha esco, la mantova 1 c'è tanto. Aspetta, la 1 è buona, la 1 non mi splatta per niente. Non c'è corrente con la 1. Vabbè, comunque avevo un sacco di roba, anche un sacco di apparati. E io avevo dato retta a cosa, a Marco Ratapiazza. Mi ha detto, prendi il 2009 che è l'ultimo. abbiamo trovato questo qua per l'ufficio. Però a noi la verifichiamo e mi sono preso questo. Articoli per la diamante. Fa la 48, la servizio, fa la 5, 5. Insomma, vediamo. Ma lo stai chiamando? No, sto andando a vedere gli apparati. Ah, ok. Ah, allora fa fare la diamante. Ma come? Come? Fa la 48. Sì, ha un sacco di roba anche per la diamante, sì, poi lui rispara, fa. Io ho visto che rispara gli apparati. Dov'è? Come? Che città è? Non me lo ricordo la città, aspetta un attimo, te lo dico. Ricevitore scanner di AESU FRG 2006, UHF, per la diamante e adesso è. Eccomi. Mi stava prendendo la pitorra, sono andato a farmi un panino. Sei su un altro canale. Negativo. Ogni tanto si sente una mimura, gli enti cantelli quando entra doppio room. Perché si porta dietro quelli spagnoli, la propagazione. Sì, è salita un po' la propagazione. Ho provato a spostarmi su 52, c'era gente, era affollato in USB. La Jai, mi dà davvero un baracchino che costa 2 euro a spostarsi su 52, grande amico mio. Sul villaggio la radio l'ha dratto, no? Hai visto, hai ragione. Hai visto che era in un altro canale, c'è sputtanato. No, ci sono andato adesso. Scherzavo. Ci sono andato adesso, mentre c'è un passaggio e l'altro con il giro. Caparroggialo. No, sono andato a farmi un panino, mi si era bene la bittorra. No, io c'ho il biberone verde che ho portato qua. Mi sa che farò a fare visita allo Zucinco e me lo comprerò anche io, il biberone verde. Va bene, la Bavaria, vreca vreca. Franco, guarda che sto toccando, c'è il bar, si chiama Lusus 5. Non è una cazzata, è vero. Torres. Ciao Fra, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Lo conosco, abita qua vicino a me. Allora sai di chi sto parlando, eh? Da Giuseppe, non ci va. Da chi? Da Giuseppe, quello che c'è vicino a Porta Sant'Antonio. In quel circolo sottoterra, giù mai. No, negativo. No. Qua è perché, vabbè, attaccato a casa. Poi c'è Salvatore, mio amico, il bel bar a Sassari. Qua, bel bar, sì. Da Omar, devi andare, da Omar. Cioè, Omar Cipoli. Grazie, perché sono spagnolo che tappa a Giumai, lo tappa a Gianni. È Omar Cipoli, eh. No, ma è lo Franco. Dietro la Gonzaga, arrivato. Dietro la Gonzaga. Omar è in via Cogio, dove c'è il Conti. Cazzo, ma è Fabrizio la vita, dentro c'è il biliardo già. Se no per l'ambulanza, pure chi vi sempre rema. Via, c'è Franco, lì su. Ah, l'ho sentito, buonasera. Ciao Claudio. Mamma mia, come sto. E come stai, male? Non c'è niente, nel 45, no. E a chi, cosa di più vuoi segnare? Lo sai che una di sì e 7 no. E anche lì da mezza truffa, capito? Non è che lo puoi usare, vabbè, ci sono periodi dove c'è sempre propagazione, ma altri giorni no. È tutto il giorno così, vai e viene. Massimiliano, il biberon di che marca è? Bavaria. Bene, Meda, buona scelta. In Tirusa, mamma mia, per carità, sta falando di vasi. E perché non è buona la Bavaria? La Bavaria è meglio di Clusa. Sono una birra olandese, ma buffo indice. La Bavaria è meglio maggiorella. Vabbè, pure la mia. Buona. Io l'ho battato. Sì, no, la mia. La sua roba è mucciazzi, va. Mezz'allanche. No, proprio in capo, in la bocca. Comunque la Bavaria è meglio di Ricrusa. Sì, no, Ricrusa da adesso non serve più. Perché cos'è, olandese? La Bavaria è olandese, sì. Minchia, è buona, qualche volta l'ho bevuta. E dove? A casa di chi? A casa tua. Ah, ecco. Vabbè, anche se molte volte non mi hai dato niente. Bastardo. Dai, io. Non ti intendo, fra. Due comari, cazzo. Io non ne bevo birra, veramente. Bevo fermentino. Che cazzo, su sì, cosa vuol dire? Birra? Se no io birra, amico, non c'è idea. Non c'è proprio vino io. È più buono, e non è buffa, buffa. Se buffa, eravate sigosa. Quando gonfi la pancia, tanto la sgonfi da dietro. Quando stavamo facendo, stavamo la mano a fare lavori a Massimiliano. Aspettate. Fratello, mi si vira a pranzo. E ha detto, visto, non ci vediamo mai sto andando. E il sito me l'ha comprato un buccione. E me, cazzo, cosa ti lascio senza vino? Ah, sei un amico. Sei un grande, tu. E l'ultima volta l'accetto, però. Sì, vabbè, infatti mi hai svuotato la bottiglia. Boccione. Hai zione. Vai, oggi. Un attimo, è arrivata mia moglie che ha fatto la sorpresa. Ci sentiamo tra un po'. Fatta, ciao mi. Addio mi. Mi devo lasciare la porta inserita mi, vai Rubroffe. Sì, Ricrusa è... sta fuori dei vasi, non è più... Vabbè, sta fuori dei vasi c'è da tempo, da quando non è più una birra sarda, quindi però ultimamente è proprio imbevibile. Dini Braga, andiamo ai cassocci, lo sappiamo noi, eh? Io bianco e Campari. Bicicletta. Tutta la fragosa, Sì, c'è lo scooter, non la bicicletta. Io Campari che era certa mamma. No, qui c'è lo vizio di Don Feno, infatti è morto così. Stamattina qua due me ne sono venuti di qui, al bar. Sì, anche io l'altro giorno, cioè avevo sette, era quella giornata che ha fatto bella. Sapevo già detto, mi metti un Campari ghiacciato e un goccettino di vino bianco, la c'è mille accuse, ci perdo. Quello lo bevono i cardinali, i preti, già. Sai come mi piace quello? Col gin, aranciata amara, Campari e gin, allora sì. Quello è buono anche col doppio rum. E anche con l'arancia. Anche col doppio rum è buono. E chi ne è? Mia sorella lo beveva quello, infatti le sono cresciuti i baffi, avanti Daniele. Arri, buonasera a tutti. Antonio, mi hai rompito le balle, Barò. Ogni volta che entro devo staccare l'NB, cazzo, perché mi va in saturazione. Aspetta, è che lo devo staccare, cla. No, di lineare, no, lineare ce l'ho attaccato. Praticamente i baracchini così modificati hanno un bel di acuti, no? E quindi mi manda in distorsione la radio con l'NB inserito, no? Con lui sbanca, allora lo devo disinserire, se no ti sento tutto fuacuè. E tratta pure di un baracchino, aiuto, boh, che la radio. Claudio, gira la direttiva e poi nel 1004. No, faccio un latte, faccio la direttiva attaccata. Però è girata verso Stintino, fracca. Infatti da Eugenio non c'è nuda. Con la verticale, boh, non so quanto ti arrivo. Quanto ti arrivo? Ah, Eugenio non c'è più. Lo stesso segnale la verticale, c'è. Ma si vede anche da te così, 9-10 so con questa, no? Prova. Guarda a vedere. 15 sì, no, con questo. Magari perché questi c'ha un pochino più watt. Questa ne ha 20, quella ne ha 10. Però se cambio baracchino con la direttiva ti arriva 9-10, così è. E io. Va bene. No, perché ce l'ho l'acqua, insomma, vicino alla finestra, siccome la tengo aperta. C'avevo freddo, là mi sono spostato un po' più al centro, capito? E ho commutato questa. Oh, riprendi Rubrofetto. ma volevo dire una cosa, ma adesso mi sfugge, dai. Avanti Daniele. Cappa, no, l'ho staccato qua perché, sai, lei sicuramente c'ha i contatti sporchi, ogni tanto non mi manca la ricezione. E devo dare due colpi importanti per riprendersi. Me lo fanno i valvolari a volte. Non è tanto, è come scalda la valvola, visto che lei che è a fianco, come scalda la valvola sicuramente lo sollecita troppo e quindi ti va in tilt. Vabbè, no, Daniele, sono passati lineare a valvole, sono passati, guarda, io ne uno, ma segnalo, lo conosce, bellissimo, fortissimo, una bestia, mi manca una valvola, non so se comprarla e metterla e usarla o se la salgo così, perché non mi interessa, il valvolare ormai è passato, capito? Belli sono i lineari al coso, allo stato solido, praticamente transistorizzati. Ehi, adesso Palletto è salito Filippo, che palle, che prendi doppio ru. E per dire, tu prendi un Pippo 131, è un 747, hanno la stessa potenza come volume, come spazio, 4 volte di mezzo 747. Questo io ce l'ho per cantare, ho detto fallo girare un po' che è sempre fermo, capito? Giusto per quello e per fare delle prove anche. Già sta funzionando tutto bene, dai. Già non fa casino. Quanti fatto d'acqua? Cosa già? Quanti ne dati fa? Sono ai 150 dovrebbe darne, non di più. Non c'è niente, cos'hai? No, questo è CTE, lo Speedy. Lo Speedy è una valvola, eh. Capito? No, adesso sono sganciato però mi già. Ah, ho fatto lo Speedy, sì. Io ho usato il Giamo Aristo, già lo so. No, questo non è quello nero, perché ce ne sono diversi modelli. Questo è quello grigio con lo strumentino a sinistra e le due manopole al centro. No, io ce l'avevo nero. Ma che se c'è un marito che ha tu fa, che si lavora in casa, non è che vabbè, va bene. No, ma io ce l'ho l'altro, il 747 va più che bene, e ha voglia. Sì, io credo che va bene, ti ha pagato. Io ne ho venduto un po' da poco a là, se ti ha messo come due pittura da qui, dopo se mi si fascerà. No, io non lo vendo, manco se me lo pagano, questo mi serve, se me lo tengo. Ce l'ho io già, se lo voglio, va bene. Quello non è mio. Se lo fa via ti vendi, boh. Se cane morto che ma dimmi tu questo oh fra e te cioè spogliare mio ci può quindi ma la giugno fatta a due o meglio a te le vendendi allora vino se mi la segnerà perché ce l'ho due la staranno a me cazzo se tu le dai un pacco di buste di Mondezza Massimiliano anche quelle si vende e tanto cosa me ne faccio io cazzo già lo sai cosa tratto io che ci sono giocattoli giocattoli aggiungi cazzo che c'avevo io il figlio del tuo aggiungi un pugno a vatto spingimi ma vedete cazzo sto dicendo con 8 watt con l'airbag 8 watt che avevo paura a dargli di più sto 180 ne davami fa qua no uno che c'è Massimiliano tipo il sempre a MOSFET però è a 6 potenze capito piccolino quanto è il 747 però ne va di 4 ne va di appena più grandetto del 747 già cos'è l'EM? No CTE non sarà il 757 negativo quello è ancora diverso si assomiglia molto ma non è uguale quante marce c'ha quello? 16 e quant'anni fa la marcia? Guarda ti dico solo che l'altro giorno ho fatto un video perché dovevo passarlo a Tino che lo doveva dare un altro amico gli ho attaccato l'alimentatore da 25 ampere e lo si eleva non bussava blu più senza marcia non andava di più e segnava picchi di 180 un po'. No, io quelli con le marce così li ho sempre odiati perché quando sali su li storce la rana solitamente si apposta perché non lo so. Questo non distorce niente, tu lo metti in sesta, lo metti in quinta, la radio rimane sempre bella, poi a MOSFET. Non aumenta la radio, perché a me me la aumentava addirittura. Gli stessi finali già, però sono più forti, capito? È della CTE come il 747, ma della CTE. Sono 300, il B, no, l'A, come si chiama, si vede? AB300. AB300, sì. AB300, è un pochino più alto del 747 ed è uguale, come lunghezza, uguale. Non l'ho mai visto, magari vedendo, non so se lo abbiamo avuto abbastanza. Quello che non ti piace più di più è il 747, quello che non ti fa distorcere, che va bene, tira, spinge, va bene, dai, ma tira. Il tuo girobolo in busciaca 747, ha la stessa scheda, stessi, no, stessi finali, perché questi sono più grossi, questo ha la stessa radio del 747, solo che è un pochino più grande, no? Già ti ho mandato la foto, già. Senti, sì, con la direttiva. Marco? Si è calato adesso? Sono calato? Sono col baracchino. 695. Aspetta. No, sempre uguale. E magari si è spostato leggermente. Non è molto stabile con l'antenna, no? Col vento oscilla appena appena. Sì, ma già va bene. Visto l'hai già. L'ho visto, l'ho anche avuto con i lineari, non c'ero anche avuto, l'ho avuto, l'ho tenuto qualcosa, ma non mi distorceva la radio con paracchino che avevo in macchina, lo sai? Non lo so, non lo so, comunque, questo c'è bene, va bene veramente, io l'ho provato l'altro giorno. Ce l'avevo anche Claudio agganciato con quell'87 modificato. No, ma l'ho provato anche con l'Evers e non me ne distorceva il radio a me. Non lo mettevo in sesta io, lo lasciavo sempre in quarta. In quarta dava 150 watt pieni, con 6 watt di 5 watt di ingresso, ma era spettacolare. L'ho provato io, va bene, va molto bene. Avanti, lo profetta, poi vai per cose. No, ho cambiato baracchino, perché così sento meglio a Daniele, con 440 mi fa troppo in distorsione. Vai, lo profetta. Come entrate vi portate gente in propagazione appresso, grazie a tu che Massimiliano. Adesso l'ultimo passaggio ho fatto difficoltà anche a capirti, figura di tu. Questo per come vi sto ascoltando io adesso. Avanti Daniele. Sta arrivando forte, sta arrivando. Però devo essere in FM, perché questo sta arrivando 7-8. Allora devo cambiare di nuovo baracchino, Gianni. Sì, poco fa era proprio l'ultimo, insomma, l'altro passaggio che hai fatto, il penultimo, sono riuscito a capirti a malapena. Io Daniele aggancio l'elicottero che ci andiamo a 45, io ma già ce n'è. Io proviamo là se c'è qualcuno. Io proviamo a spostarci in 5 minuti. Oia, così meglio mi senti, lo baffetta. Così va benissimo. Da 10 watt passiamo a 20, 50 modulati, è già lo che mi intendi. Vabbè, baracchini, sono baracchini, fra. Non vedi la niente, no? Per usare un baracchino uso questa. Già va bene. È meglio queste, se almeno non si lasciano più. No, ma poi non hai problema del. Poi il 48 mi poserete. Lascia verde, no, è per farlo andare un pochino perché è sempre fermo, capito? Allora l'ho attaccato ieri, l'ho lasciato attaccato, però quando c'è propagazione, anche se c'ha 10 watt, no, non va nulla da va. Sì, ma è così. Stamattina c'avevo 48, mi sbatteravano, dalla Sicilia mi sbatteravano. sinistra, ancora mi sei quasi curato, è passato un camion, un camionista qua all'uscita delle gallerie, ha chiamato dove c'era un collega che era da Nanzi, fermati, fermati al rifornitore della Cuese, stavamo durando Coso, Daniele no, perché Daniele arriva quasi a fondo scala, siamo vicini. Stavamo durando Gianni il profeta, mi ha fatto battimento, l'ho sentito per miracolo, non si può usare in città quella radio. A me piace perché vedi c'è anche una bella modulazione con l'MB più 5, nuovo, proprio quello è nuovo, ho comprato nuovo, avevo comprato la GBC quello, 160 euro, la mazza viene le varie, e l'ho sempre avuto dentro la scatola, capito? Ogni tanto lo tolgo e lo attacco, però non si può usare, è un casino. A meno che non ci sia proprio silenzio, non ci sia propagazione, se siamo tutti in un canale, allora va bene, ma se no, madre di Dio, avanti doppio rum. Qua faccio. Come? Sono qua. Sì, parla. Avevamo tutti su 45 per vedere se c'è la propagazione. Non assomigliamo che c'è qualche tempo che c'è, se c'è un po' qua. No, io non prendo più il cazzo di chi. Magari chi ce l'ha sta lì. Ah, mamma mia, che si la mette in mano qua. A me quando c'è quello non mi piace, perché il cazzo è sempre il cambio, tiki tiki tiki tiki, il cazzo è sempre così, tutto il giorno così. Ehi, guardi che mi gira le balle, vedi. Vengo io anche qui a Cacciatore, che lo do io, tiki tacchi, attacco vici, vici elicottero, il vostro baciamo a chi? Cazzo, ma non fa un questo, oh, cazzo, nulla, cazzo sempre a bordo, sempre... Non è più così, mamma mia. Ah, quelli che fanno il brutto. Sì, ma è che fastidioso, lo sai, a volte già quanta gente gli dice cosa. Che schifo. Sono quelli che proprio che fanno il brutto quando riesco di modulare. Qui adesso tu prendi quel Macaludo, quello Mario, quello del Portogallo, quello cazzo è un radioamatore, cioè entra, sì, saluta, parla, normale, quello che sa dire in italiano, però cioè se riesci ti fai anche un piccolo QSO, insomma gli dico una cosa impressionante. Macaludo, basta che li canti, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, subito entra. Io ce l'avevo a Facebook qui. No, vedi, ma andiamo. C'ha 60 e passa anni. Cazzo, si lo vedi, lo sai che ci assomiglia? Quello che faceva quel film, quel telefilm con la macchina supercar. Ah, ho capito. E pare si fa, ripeto, italiano vero, quando ho cantato la canzone. Sei un italiano vero, a voi piace questa canzone, tanto piace! Sì, è da buio quando è mezzo gutto, sicuramente è bello, quando è mezzo gutto sta sempre cantando. Avanti, Eugenio, è con la moglie, lo profe. In carina, Ghiscio, no? già l'ho sentito anch'io. L'ho sentito anch'io, il portoghese, David Hasselhoff. Allora, vediamo, macho bulldozer, in gamba, là. Va bene, vai, capo di Buglie. Ehi, aspetta che mi stavo regolando la radio. Ciucchi. Buonasera, buonasera, è barrato so. Buonasera, Bernardo. Cazzo, ma troppo, c'avevo l'amplificatore inserito. A Giuma mi facevo smettere, la mazza di Nevaria. Sono anche di sciosa. Ammazzati. Vabbè che c'è quasi 18-20 watt questo apparecchio qua. Il 950, sì. Stai toccando la punta del 6. Claro, ma dategli, portategli la Pomponia. I datteri? I datteri, quelli che hai ritirato la Pomponia, portategli, no? Non ho portato niente, ma c'è già che era mia frantonizzata stamattina. Mi sono bubesso, grazie. Siamo andati a prendere un caffè e mi sono perso. Ah, fanculo. Va bene. Comunque là, io ti ripasso al tutto, mi capito, quella roba là. Mi ripasso al tutto, e non mi fai passare. Ma grazie a lui ha fatto bella diarrea. Bene, va, come. Ehi, attirerò quella busta che mi hai dato per fare quella modifica a Massimiliano. E sarà bravo. Ah, ho capito. No, ma neanche è vera. ci andiamo più da Andrea, no, te la passo Antonio, è così, perché io non avevo capito a Massimiliano. Ti rilascio quella busta e le fai, le metti quel coso per le, quello che ti aveva detto lui, già lo sai. Sì, va bene, va bene, non c'è problema, ci vediamo domani mattina. Oggi non sono uscito per niente perché sono andata mattina presto in piedi, grazie a Maria Taccotta, e sono uscito il terrazzo, mi sono passato a brividi, adesso mi sono pigliato lo spiro, almeno mi passa a Giumagnardo. Io sono a posto. Grazie a Giumagnardo, due piatti in buvetta con la salsiccia a frango. Sono goduta la via a Trodi, ma c'è l'idea. Ehi, Carlo, devo lasciare vedere le mutande. Non è un mutande. Ah, tanto le pantalone. Nulla. Nulla ciò. E se no fai da incubatura. Ci sono goduta lì con la messo. Mamma mia. Però c'è la striscia a casa nella poltrona. Bollo, da quant'è la manca la bollo? No, ti, proprio aria, compressione, capito? Compressione. Vamos alla playa. Sovralimentato. Niente, dai, mi sono dovuto allontanare poc'anzi, scusate l'assenza, ma una cosa un po' da riparare, quindi ho dovuto mollare in fretta e in furia. Abbassa appena per il microfono. Allora, va bene, abbassato, appena me l'hai detto l'ho fatto. Troppo alto. Cazzo, ti ho messo un bastone. Occhio, la gente arancio, mi. Tra, piscia e cocca, andiamo, vai. Mamma mia, come sto. Dopo tutto quello che ti hai sniffato, ok? Piscio Maria, che è un po' lenta, che polenta, va giù un tappo, pare, non so se di giù o se di ferro. Ah, il culo! Ho alzato il microfono, scusate che c'è un po' di... perché ho abbassato il vaso, sicuramente, adesso è più bassa la radio, vero? No, va bene, ti lascia tutto così, puntella. Dimmi, Daniele. Cambio! No, per favore, dai, col motocarro qua no, dai. Piazza Rescini, lunedì vai a prendere frutta. Bene, va, adesso. Daniele, più lento lo devi dire, è troppo in fretta, cambio. Lo so, no. Voglio vedere se... sei in saturazione, sta girando bene la radio. Bene, sta girando, Daniele, bene. Meglio di così non si può uscire. E adesso così? Bene lo stesso. Raggio di catto, va bene, va bene. Mi mai non hai mai avuto una luce che scriverebbe. Ma è stato sempre una tribolazione con questo cavolo di modulazione per me. Lui, forse mi capisce, va bene, era il 140, no, qua? Eh beh, quello che l'ho fatto prendere io ad Alghero. Eia. Era nuovo quello. Quello che ho lavorato io, a Pino, che... perché non mi ha ascoltato, ok? Siete molto vicini. Marimedo. Ma sai già cosa gli è successo, sì? Da quel dolore del piede, il piede, ma trombo ci è venuto. Ma lui diceva che aveva... la malattia che ci è fatta da piatto il piede. Ma non mi viene adesso. Comunque dice che era contagiosa, di non andare a trovarlo perché era contagiosa, mi ha detto così a me. Sì, già lo so che era contagioso, ma doveva avvisare quella gotta. Non le mangiava a carne, cosa gotta? La gotta, vabbè che la gotta non c'entra niente con la carne, però. E invece aveva praticamente questo aiutami, tromboflebite, si può dire, così è. Aveva un troppo in circolazione, è successo anche a mia sorella, ma non male che sta andando all'ospedale a fare dei denari perché non stava bene, e lui all'ospedale hanno sentito portato a sé, gli hanno fatto tutte le cure, è stata un giorno in coma, qui si è ripresa, ma per dire, e chi se ne immagina, Claudio, solo che molte volte siamo trascurati, sentiamo un dolore, c'è forse non è per contare, magari con tutti, Sì, ma se era contagiosa, poi era contagiosa al tatto, non era per via orale. Sì, infatti a me quando mi abbracciava io lo prendevo a calci in culo. Guarda, quando la meningite l'ho portato io domenica notte, pensa tu. Ma davvero? Cioè, ma ancora a Sassari? Ehi, l'ho preso io domenica notte con la meningite, che sera la sta cucinando la febbre. Su un'altra, carità, vieni a stare attenti, mamma mia. Io mi sono vaccinato, però non per la meningite, per l'inculite, non l'ho più presa, vero Rubrofè? Ma l'avete fatta la profilassi? Non si sa mai. No, il profilattico mi ho comprato io già. Oh, mi avevo la mascherina e boh già. Ma quando stai così non ti succede niente, capito? Quando è così ci devi stare ore e ore appresso. Infatti l'hanno fatta fare a tutti gli amici, a Gattina, Alice, Pizzata, tutti quanti l'hanno fatta fare per 8 di anni. A tutti. Sono sotto questa sottofilassi a posto, ad Alghero. Me l'hai portato all'ospedale ad Alghero? No, era infettivo di sassa, lì è già. Gli hanno fatto fare la profilassi alle persone che sono state vicine a lui dalle 72 ore in poi. Capito? Le ultime 10 ore. Però per 5 minuti che l'ho tenuto io, che in pratica era lì agli infettivi, però la parete loro non ci passa l'ascensore, che è grande, il letto, dai, non la parete, il letto. E noi abbiamo salito solo con la barella, ma 5 minuti non ti succede nulla. Un virus che può sempre, vabbè, non è che io ti stia dicendo per carità, però per ogni sicurezza è sempre meglio faccio. È bello che lui c'ha pure quella meningococco gruppo B, il peggiore che c'è. Non so, è MVP, è tutto in coma. In coma no, perché quando l'ho preso io stava già sfebrando, capito, era tutto un bagno di sudore. Però era addormentato, capito? Colto dalla febbre proprio. Daniele, ma perché cosa assudi? La febbre viene. Ma ti sale il febbrone alto, Micla. Capito? Può essere che gli abbiamo dato qualcosa per farlo sfebrare, non so se cosa abbiamo dato. Però era già un bagno di sudore, capito? Poi adesso per fare tutto quanto per vedere. Fare la terapia, antibiotici e via dicendo. Non è altro che mi ti ammazzano le meningi, la meningite, cioè le meningi più ammazzano, è quello che ti provocano la febbre. No, allora anch'io devo fare profilattico, perché ultimamente avevo la febbre alta e mi è passata subito con una supposta di bulbosburrina e è andato tutto bene, non ho sudato più. Ma tu te lo devi pure in capo, guarda. No, in culo me l'ho messo. Ma va. Ma hai capito mentre descendi. In capo hai fatto tirare il pulino, profilato. Che venite a fare la profilassi? Io faccio un profilattico. Vedo già. Mi ricordo aspirina. Allora, una supposta di bulbosburrina, lo sai che mi è passata la breba. Capo e bugnè. Vabbè, pigliacci una sabbavaria e andatemi. Ti ne esce la dozia. Si è portato in mano, Oh yeah. Volete di seguito. Oh yeah. Ma il cert è ancora aperto, Il surf? Il cert! Tutte le mattine ci vado io alle 8. Sì, ma arrivi sempre dopo di me. Ah, è vero, Tino va alle 7. Tino va alle 7 e io vado alle 8. Ci prendiamo la bottiglietta del Campari e ci sediamo alla panchina dove c'è il treno. Cazzo, quella era la nostra zona, eh. E già te lo ricordi? Cazzo, l'avevo consumato questo muretto. Se la dissero lì. Vabbè ragazzi, dai, che è arrivata Mosè e del banchiello che era in piscina fino adesso, che noi lo trovavamo in un pesce buco. Vado a dargli una mano a scaricare la macchina e poi a cucinarci due pezzettini di qualcosa, se troviamo la cosa da frigola. Oddì, tu dille, ha detto Claudio, se voi due, quando vai in piscina, se voi due, come si dice, palloni, due, come ti chiami, due salvagenti, vengo io e tu però. Ma tu perché mi devi mettere sempre in mezzo? Perché mi aggrappo a te? Che io sudo in piscina. Se metto il pungaggio, tu lo ritroveva. Ma buon ragazzi, dai. Se coincide più tardi, ciao, divertitevela. Ciao, ti saluta Marisa. E ragazzi, ci sentiamo. Vai, Brofè. Massimiliano, si è preso. Per vedere Ma tu dici, Claudio, tu dici che se è andata a prendersi un'altra Bavaria? Secondo te? Ah, lo profilate quando è andata a punirsi. Secondo te? Ma buffende oggi? No, no, sono andato nel QTH piccolino, capito? Cazzo, e no, che quando mi bevo serrato tocca pure il mio cattetere, se no. E che apri un bacone? È troppo minore, è troppo in alto, eh. Ah, ma te lo anche tu. A buon pezzo, di buon. Che sciocchezza. Che è rimasto, che mi sono allontanato e ho sentito Tino che stava andando via. Ciao Tino. E Eugenio, chissà cosa ha combinato con la moglie. E niente, che c'è rimasto? Gianni mi pare. Gianni Rubaffetta, Gianni Doppio Rum. Daniela c'è. Chi è presente? Dai, io vi saluto che vanno a portare il cane, là. Sentiamo magari, se ne occupa, se no domani. Ci sentiamo, ma la continuazione sarà, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossimine. Salutami a Tyson, dilli che andiamo a fare un incontro, che lo organizziamo subito e ci facciamo un po' di soldi. Oh, cosa stavo dicendo, Gianni il profeta? Ah, Eugenio è rimasto agganciato. Ma va a agganciarsi domani a manzana. Ma forse no, o forse è uscito al lavoro, boh. No, ha detto che è arrivata la moglie e si è agganciato. Vabbè, meglio Baedo. Vabbè, meglio per lui sì. Sto che attento con tutti questi sudori e cose, no? Burrina, non fa danno. Vai, brofè, vai da greffa, sei capitato. Venga, ciao Tino, ciao Gianni. Vabbè, dai, quando c'è un questione così già mi diverto e già fa piacere rimanere con la radio accesa, dai. Certo, se ci sta ascoltando Giulio Rolla, ci critica. Ma invece che fine ha fatto? È uscito dall'ospedale? Non lo so, io non c'ho WhatsApp, porca miseria. Non c'ho WhatsApp e non posso telefonare, capito? Non c'ho manco i numeri, niente, nulla, non voglio telefono, c'ho tutto lì in quella rubrica. Se no l'avremmo dato un messaggio a vedere se è uscito, se sta bene, se ci sono problemi. Ma spero domani me lo dia il nostro telefono, porca miseria, ladra. Per me non ti hanno detto niente, perché? Sì, è arrivato stasera il microchip nuovo, domani me lo mettono apposta e me lo danno. Però gli ho detto datemelo domani mattina, perché io sono senza telefono. E dove l'hai portato? La Cincilla? No, l'ho portato... come si chiama? Quello di via Roma, centro assistenza. Ah, vai di Bagapuro, che è? Se... No, la CIM mi pago, lavoro no. No, lavoro no, è un amico. Però la CIM l'ho pagata, una fesseria, 22 euro l'amico CIM mi costa. E mi sto facendo mettere la... come si chiama? La card, come si chiama? La card? Sì, la memory card. Quella piccolina. Eia, cioè quella grande non ci sta. Così c'ho più memoria e tutto, capito? Adesso me lo... i dati dice che li ha passati in un altro telefono, poi me li rimette. Praticamente lo sta riconfigurando tutto, lo sta ripulendo tutto perché era anche molto lento. Ti ricordi che WhatsApp mi arrivava dopo un po'? Ma adesso te lo faccio vedere se ti arriva dopo un po' WhatsApp. E così ce l'ho a posto, perché mi ha detto lo volevo comprare nuovo la macchina, ma è un peccato, 22 euro te ne esce, ha detto cazzo 22 euro, buonimi la porta allora, e lasciamolo stare, e te lo metto a posto, e via a Roma dove c'è il centro assistenza Tim, c'è anche il centro assistenza Samsung, capito? Adesso ti arriva lo zappo prima. Lo zacco? Tu hai detto WhatsApp ti arrivava dopo, capito? Quando ti mandava il messaggio non ti arrivava subito, ti arrivava dopo. Tu dici, vabbè, ma arrivi prima lo zappo. Sì, se arrivi la bara, ero piccolo, biglio come a pesci. Mi ha un secondo? Ma bella in culo, Daniele, non la gira nelle torrenti. Mia moglie che mi chiama ogni volta. E tu dici, ha detto Claudio, lasciami stare in santa pace. Aspetta. Io sono qua, io, sono un piccolo da bacone, vai, lo profè. Guarda che mi polenta mangiato. Mamma mia, capisco, desigari voi ragazzi, no che avevo un caldo e un fiato in mezzo non si può già. Cosa Massilia? Perché? Cosa stai combinando? Ho mangiato polenta e sto facendo un bel di aria, capito? Ma tu ci sono abiti di dentini a raggiura. Figurati. Ti racconto, si va, mamma mia. C'era Filippo poco fa. agli Cuttuno, Baria, la Campana e San Camillo. È passato, dove faccio ancora il buongiorno, guardo. Perché non li fa silenziosi, capito? E anche Maglia sono così, è fiaggosi. Mamma mia, Filippo! Filippo è una cosa allucinante, sto scherzando comunque. Se non si scherza, la polenta l'ho mangiata lo stesso. C'ho un po' la pancia gonfia, ma gonfia veramente. Infatti stanotte me ne mangio un altro pezzo, va. Così hanno a dromero bugiore stanotte. Però lui è micidiale, Massimiliano, ma proprio bulldog inglese è così. Fa questi scorreggi, mamma mia, ma puzzinosi. Ma sono tutti cani così. Anche Maya, anche se piccolina, cazzo, l'altro giorno era sul divano, una bella della televisione, cazzo, mi sono cobbisciato, lo fa via San Filippo. Mamma mia, signor Filippo, che sta sotto la televisione, io ce l'ho proprio di faccia, nei due divani, no, che angolo. Mamma mia, ma allora Filippo, cosa hai fatto al nonno? Allora Ginibesia e sa via, come sta a dire, aspetta che mi allontano. Gianni, vai, non ti preoccupare, no, non ti preoccupare, già non è nuda, no, stai sereno. No, ma anche i gatti quando sganciano già sono, insomma, già sono potenti anche loro, dai. Certo, quelle puzzette silenziose, ma cazzo, terrificanti. Puzzette di vazia nonno, che quando faceva le puzzette ammazzava Vinza Grazinzola. Non sai cosa ho trovato qua? Eh? E dopo gliela cambio pure. La capsula per il più 5 è quella con lo sfondo verde. Capa. Sì, quella che c'ho io, quella che gli ha messo Gigi. Con lo sfondo verde, quella devi mettere, quella. Capa brioche, così poi quando mi restituisce che quella roba là che sta a posto, te lo aggancio qua. E il cobra ti rompiamo fuori, allora. Avanti Daniel. Ora amici. Oh ragazzi, io vi saluto, dai, sentiamo dopo, domani se coincide che qua la pappa è pronta. Ma noi te, ma dici che hai fatto notte fonda di notte tu? Cos'è, non hai visto il giorno? Sì. Tu? Ah, abbiamo chiuso alle 11:30. Ah, alle 11:30 devi essere già agganciato tu, cos'è alle 11:30? Ah, ve lo dico io, amore, tu, non gli ho compreso, devi chiudere presto, devi agganciare. Ho acceso la radio, voci di passaggio, ti ho sentito, ho detto, ma che non ha il sonno? No, c'era, era proprio Antonello e Tino. Sì, già lo so, vabbè Tino oramai non si aggancia più, è già agganciato, però tu ancora sei giovane, ti puoi agganciare, se no è un casino, non è che non vuoi la gara sola, c'è un bizzino. È sicuro. Va bene, dai, sono qua li picchiamo. Dai, tutto acceso, sai, ci sentiamo dopo. Ma tu non sei la mia tattica, così io fa dormire i bambini prima, no? Ah, per quello è ti. Invece l'aria fate drumare a me prima. È già andato, sir. Dimmi, Massimiliano. Ho detto, guarda che molto probabilmente, il 90%, domani sera devo salire da mia suocera, che è vicino lì al Barginepro, là, per farti capire. Mi metto in macchina con il 48 e trovo. Aspetta, stavo parlando del bambino, ho capito, devi salire a Sassari e poi... Lì vicino al Barginepro. Che così ti prendi questa radio. Va bene, sei vicino a casa quindi, va benissimo. Ciao Fabrioscia, ciao, a dopo, ciao. 48, faccialo qua, gli do il mio. Dai, buon proseguimento, ciao. Ciao, avanti Fra. Ciao Fra. Ciao Tino. Ho detto, Massimiliano, con il 48, faccialo qua, io ti do il mio a darvi. Se vi mettete d'accordo, per me problemi non ce n'è. Vabbè Fra, vai il burro mio, è nuovo come il tuo, con l'MB più 5. Vedremo due e ti vediamo da chiccio, una ghetta lo tratti tu, una ghetta lo tratto io. E allora, è andare, no? Solo che tu l'hai pagato, se quello è manco, Ma Fra, guarda che io non l'ho comprato adesso, ma io l'ho comprato forse 2 o 3 anni fa, mi hai capito? Quindi in proporzione, se vogliamo dirle veramente cosa a quell'imbecille, il prezzo l'ha tenuto, me non l'ha aumentato, Io 160 euro me l'aveva fatto pagare. Ma tu l'hai preso la GBC, l'hai preso? Io l'ho appoggiato. No, io l'ho preso da Tonino la GBC, ne voleva 180, l'ha detto Tonino, fai la bravo. Cazzo, con tutta roba ti ho preso, ma non ci voglio niente qui e là. Allora ci ho visto con la calcolatrice, fai 2 conti, e ti ho non calcolare molto perché me ne sto andando, dai dammi 160 euro. E l'avevo comprato, capito? L'avevo comprato perché mi serve, a me serve l'omologato perché nella concessione c'è quello. E quindi l'ho sempre tenuto, capito? Se io non l'avevo comprato. Capo. No, io quando mi sono andato a ammazzare a tuo prezzo ho detto dammelo, appena aveva uno solo. Fusaro? Sì, ma Fusaro, se trovi Antonello che non c'è Marzia, il prezzo te lo fa, perché a me è un sacco di... Io l'MB più 5, cioè l'MB più 4, quello Massimiliano che avevo regalato a Coso, a Giuseppe, quello lì, io quello l'avevo pagato 30 euro, capito? Costava 45 e l'avevo pagato 30, però c'era Antonello da solo e me l'ha fatto pagare a prezzo di costo. Ma se c'è lei, non ti toglie manco due lire. Da 5 me l'ha fatto pagare a me, Claudio. Antonello, anche tu, chi te l'ha fatto il prezzo? Mafia? Sì, a me l'ha fatto Mafia, però, addirittura devo ritirarmi anche lo Zeus, 100 euro. L'apparato che c'è di là dentro, me l'ha messo da parte. Lo secondo mese devo ritirarlo. Quindi figurati tu. Niente, già mi fanno dei bubletti a me, quanto meno passare adesso, siamo dove lo trovi, a fianco al ballo tu, ma a fianco alle busta c'è quel cicoletto lì, lui va lì, si beve il vinello, tu vi sempre lì, quando lui non c'è dentro al negozio tu vai al circolo. Sì, no, anche a me Matti, la verità, prima San Giovanna, buon'anima, me lo faceva lo sconto, ma Edda, quando era mamma, Edda, Fantatonello mi fa un fiorino, vabbè dai, ci vediamo dopo, passo quando c'è Antonello me lo fa lo sconto, capito? Hai detto devi ritirare Zeus, ma quello piccolino che c'ha tutto dal microfono? Mi sembra che è quello. Certamente sì. C'è dentro la scatola nuovo, ne ho uno io, cazzo. Gli ho già ordinato. E devo ritirarlo un'altra volta, da quando il giorno ho comprato il microfono, perché ho comprato il microfono e il CVC con quella carta gialla, capito? Ma gli ho detto, se mi va male, gli ho detto, gli ho parlato i contatti. Invece, no, già funziona la carta, mi ha detto. Allora ho detto, dammi adesso il microfono, gli ho detto, il CVC. Poi gli ho detto, alla seconda, il prossimo mese, ho detto, vengo per il Zeus, gli ho detto. Porca miseria, te l'avrei dato io, te l'avrei dato io, nuovo, dentro la scatola. Chi l'ho lasciato, Massimiliano? Sì, è qua ancora, dentro la scatola. Che sciogliere. Ma non puoi dire, Antonio, te lo dico io. Nuovo, mai usato, non me ne faccio niente io. Facciamo così. Non mi cambierà più a me, no. Ora ti faccio anche 10 euro in meno, bene va. Anziché 190 euro, bene va. Va bene. Cosa Massimiliano? Non ho detto niente io. No, pensavo sentito gente sotto. Nuovo mio, Antonio, mai usato, non sto scherzando, Se te lo porti via mi fai una cortesia a me. L'ho lasciato a casa di Massimiliano, che lo voleva provare. Invece no, la manco provato, è sempre dentro la scatola, capito? Solo 90 euro te lo do. Prossimo mese me lo dici, ricordati Massimiliano a mettertelo in macchina quella scatola, così quando ci vediamo me la dai. Io lo canto meglio. Canto battenile anch'io, 90 euro, 10 euro in meno, di sconto, e si è a posto. Anche non ti bocci un po', perché anch'io l'ho pagato a quel prezzo, mi ha detto me. Sì, già lo so, già, quello è il prezzo, me l'ha detto Mazzia. Visto che te lo accetti o te lo non va. Nuovo, mai usato, niente. C'è tutto dentro, tutto il kit, tutto. Capito? Dubrofè, Sindria ne hai, Sindria, Angurie ne hai. Dai, sto ascoltando. E cosa stai ascoltando? Cazzo blu, ma chi deve ascoltare i fatti di latte se voglio compreso? No, vabbè, mi sono distratto, stavo controllando una cosa su internet. A me invece a bocca piena, tu. Cosa c'ha quello, Clay? L'ho visto così dalla scala, c'ha il frequenzimetro nel microfono, mi pare, no? Tanto bello, è tutto illuminato, tutto il microfono fa. Quello tu lo stacchi dall'unità e attacchi il microfono dove vuoi, è specifico per camper, macchine, cose così, ma anche a casa è molto bello perché tu dal microfono fai tutto, c'è il volume, lo squelci, i segnali, tutto lì c'ha, ma tanto è bello. Ho capito. Bello, non costa molto, costa 100 euro nuovo, io l'avevo pagato così lo stesso, però per Antonello, visto che mi fa sempre cortesie, 10 euro gli ha tolto, c'è la biglia e culo. Parlogelo. Non c'è d'accordo, va bene. Per me è la tua radio, è roba mia. Fai tu. Allora, per 90 euro prendiamo un porcettone e ce lo mangiamo. Devi aggiungere qualcosina, va. Ma un porcettone. E dipende dal porcettone. Il porcettone ci fa di... Già, Fabrioscia. Va bene, va bene. Avanti, Antonio. Sì, sono di qua, anche di là che c'era scritto Giuseppe di vicino. Di solito non parla mai, cioè invece si è troppo entrare, quindi l'ho salutato in PMR, dato che stava chiamando. Già va bene, già va bene. Ehi, Antonio. Sì, mi quella busta, tanto l'ho rimessa in macchina. Già, domani ti chiamo, ho fatto l'altra volta e te la do, capito? E tolgo la staffa, che me la tengo io quella, nel coffa, e tu fai quello che devi fare, capito? Quello che ti ha detto Massimiliano, poi già ci vediamo, non ti preoccupare per il resto. Gianni lo profeta, me lo dico già sia Biden che il tuo computer, io ce l'ho acceso e non venuta, anzi una signorina nuda c'è adesso. Oi, ragazzi, dai, va bene, va molto bene, dai. Stasera con questo corso mi sono veramente divertito, dai. Non dico che devono essere tutti così, ma quasi, dai. Beh, a me piacciono così queste ore, devo essere sincero. Ehi, ma cazzo, avrà biglietti a video, che da domani voglio dinare. Ehi, vabbè, avremo la golletta, là. La golona. Per la gugliuppa. Avanti, Franco. Capo, ma noi siamo da stamattina solo in radio, Da stamattina, sì. È entrato Gianni, è entrato Daniele, qui c'era anche Eugenio. Ma tu sei in pensione però. Vabbè, non sarei intravisto. Capito. Io mi ho portato quel cazzo di portatile, invece non si è fatto sentire a dire un camionista, cazzo, che ha attaccato le strade a Travaglielli. Non ce n'è più Massimiliano, ma sai io quante volte lascio sul 5? Non c'è più nessuno, Massimiliano, non c'è più nessuno. È un casino. No, guarda, io stamattina ero sino alle 11 a casa, 10 e mezza, poi mi ha chiamato e di mattina sera mi ha detto ti avvicino a te nella via per Antonio Sciatta, mai la voce avanti. Sono andato lì e mi gioco un pezzo, gioco durato dall'1 e un quarto a casa. Non senza far niente perché stavamo parlando, poi siamo andati al bar. E quello, quell'altro, fammi vedere, un cicchetto qui, un cicchetto là, e si è fatta 9 e mezzo. Se no sarei entrato anch'io in radio, perché ero a casa stamattina. Ehi, capo, ma verso le 11, dalle 11 in su eravamo, perché sono uscito anch'io stamattina. Ti sono riuscito a dire due gamparetti. Sì, è proprio stamattina lo stesso, ci hanno fatto un aperitivo, poi due chiacchiere, due cose, l'impresa che sta facendo i lavori qua che hanno finito, mi ha detto se vado anche lì via per la turisciata, stanno facendo un altro cantiere, sono andato lì stamattina a portare la roba da qua a lì, ma mai la voce avanti, mi gioco un bescio. Massimiliano, tu non sai quanto è bello quando non devi pensare più a niente. Lo so. Cioè, non lo so perché ancora non ci sono arrivato. Lo so, ma è meglio così, Ofra. Grazie a Dio già te li hai lavorati i tuoi anni, quindi non ti preoccupare, adesso è tempo di divertirti. Sì, già lo credo. Non manca assai, sono 50 anni che travagliamo. Vabbè, purtroppo è così, adesso finché non sei col baccolino non ti mollano, è un casino, sta diventando sta pensione. Comunque questo portatile me lo vuoto pure, tanto non me ne vuoto nulla, nuovo, perché anche un grafico, chi lo vuole? Ma giù tu innaccio. Va bene, dai, va bene, vero Cla, si sta bene, no? Mi sono Mario. Santo Antonio. Non lo sarete. Già, tu in pressione, sì, Lubroffe. No, ancora no. No, no, a parte gli scherzi. Adesso sono fermo. Vediamo un po', mi devo... sto cercando, dai, sto... mi devo fare un'idea di cosa fare da grande, dai. Da grande. Sì. Anche io ho una sorta di pressione, lo fermo, l'ho seduto. Devo pensare come devo fare da grande. Vabbè, vabbè, vabbè. Già, io facevo, il lavoro che facevo io era seduto. E se no io, se non ti ho consumato poco, sedi di macchina. E perché il mio non era seduto? No, tu non l'avrei mai voluto fare, ma ci vediamo. Che cazzo, ti droga in due, ti droga in china. E a più mi fa di lui, proprio la droga in china. Quando ti dà via le sigarelle senza ammortizzatori. Ma che cazzo, ricavatore, ammortizzatore, non ha. Vabbè, ma quelli di oggi sono più moderni, ma sono via, dai. Non sono come i classici 219, il 441, il 50. Ho capito, questi di adesso che sono più moderni, ma io ho iniziato con quelli però. Anch'io no, io ho iniziato con il 50, ti puoi immaginare, per carità. E io con l'80, quello che c'aveva le leve davanti, cazzo, doveva via 4 rimi, cazzo, me l'attaccavo alle ginocchia per fare 3 movimenti assieme. Quindi un po' di gavetta me l'ho fatta, cazzo, e quindi adesso con questi nuovi sì, sono più comodi, l'aria condizionata e tutte cose, però quando cominci a grattare la roccia, la schiena te la pesta. Allora, signoria, quando ho cominciato mi hanno dato un OM mi hanno dato, quando vediamo una brezzichina, per cucire un brinco sul carrello, ti misurare per cucire lungaba la gabbia. Cosa redda era? Sì, e ce ne avevamo uno noi quando ero dentro lo stabilimento, Ofra, che ero con la Sacher. Era un 82 a spostare i pezzi, tutti i biantane, quando stavamo facendo lì la costruzione del coso del carbonile. Sant'Antonio mio, una guida a destra, no, a sinistra, così è, con la guida a sinistra o a destra, ma non me la metto. Comunque la guida al contrario aveva. Ogni volta rubigliava che della cosa, c'era un autista anziano di Cermelli. Non riusciva manca il mobillo. Guida a destra, un 82 verde, me lo ricordo con la gruetta. Sant'Antonio mio. Con quello ho imparato io, col 97, col 300. Vabbè, l'82 era praticamente quello che ci aveva il padre di Busa, ti ricordi? Il padre di Antonello Busa, di Ciccio, che faceva l'autotrasportatore. Uguale a Ghiscio era. Vabbè. Che poi pretendeva, no Massimiliano, tu devi fare un po' di tutto, però le patenti te le devi prendere tu, a spese tue, e poi già la finita. Io invece non mi lascio mai biliardo, però il camion l'ho sempre usato lo stesso, capito? Adesso vabbè, dentro cantiere è diverso, però anche io, mio zio qua, già lo conosce mio zio, c'aveva il 94 asse, quello rosso, cazzo, quella bala cingolata sopra, lui Grazie. Solo che pretendevano, lo stipendio era sempre quello, e però dovevi spendere, cazzo, per prenderti addirittura, dovevi prendere l'aereo, perché avevi intenzione di prendere il carrello, capito? Quindi il rimorchio, caricare, fare, portarli noi, fine, dai. Ma io non me ne ho mai voluto prendere patente del camion, perché se no devi fare troppi lavori, capito? È un giramento di cattoli, cioè un giorno ti buttano sopra lo scavatore, un giorno ti buttano sopra un camion, e c'è da scendere un camion in officina, c'è da portare tu, no. Adesso io sono già 2 giorni che sto guidando il tuo cazzo di Rodun, per me ammazzelli. Ma dirò, non mi dispiaceva portare il camion, anche che quando me l'ho caricato. Però succedeva, a portare la pala, e il greder, e il rullo, e il didacca, ma esci di una sacca. Ho detto, adesso mi c'è, siamo in due, uno che porta il camion e l'altro che carica. E non l'ho preso anche perché pretendeva che me la pagavo io, capito? Quindi non ho... se me l'avevo pagata lui magari già l'avrei fatto. Così è. E vabbè, comunque, io dico una cosa, tutti i lavori sono pesanti, tutti quanti. anche chi lavora seduto con la penna è pesante lo stesso. Non metto in dubbio, però chi più chi meno. Vabbè, Franco. Guarda Massimiliano, i lavori sì sono pesanti tutti quanti, perché alla fine poi diventa morto. Però ti dico una cosa, se tutti come i camionisti, perché guarda, come camionisti una categoria come quella meglio non vederla, perché uno che si alza alle 4 di mattina e se rientra a casa alle 10 di notte per la miseria, guarda, è una cosa straziante. Io il camionista non l'avrei voluto mai, ma mai fare, e se mi avrebbero, se avrei avuto la patente, mi avrebbero proposto quel lavoro, non l'avrei fatto. Ma quelle a volte sono anche passione, capito? Fra, io la penso anche così, perché cioè io il mio lavoro lo faccio per passione, perché io potevo tranquillamente portare avanti l'attività di mio padre ha fatto una vita in pozzi a sonda e a me l'attività di mio padre non mi piace, non mi è mai piaciuto, è un lavoro pesante, tutto a mano, non mi è mai piaciuto, e noi avevamo due di sonde, quindi io potevo tranquillamente, dopo che ha mollato lui, portare avanti il suo lavoro, ma io ho niente da fare. A me mi piacciono i cavadori, pare cingolate, quindi da piccolino ero sempre in mezzo a queste cose, mio Dio ce le aveva, mi portava con lui, e quello ho fatto. Oh, perdonatemi che è pronta la cena, dai, mangiare una cosetta. Ciao Tino, Franco, Daniele, Gianni Lubrofetta, te Massimiliano, saluti a tutti. Se coincide a dopo, altrimenti a domani. Ciao ciao. E allora fallo coincidere, sennò povera Anna che almeno smaltisce un pochino. Ehi, se no t'aggantemo. Va bene, Clara, dai. Ciao ciao, e anche io adesso mollo, che così almeno organizzo anche io qualche cosuccia. Va bene, ci si riascolta dopo se ne avete voglia, sennò a domani. Ciao. Ciao Claudio, buona cena, occhio alla polenta. Ciao Claudio, ciao Tino, Claudio occhio alla salsiccia, avanti fra. Capo, dai. Ciao Claudio, ciao Tino, ci sentiamo. Mi raccomando Cla, mettiti il cagnolino a fianco, Ah, ma che Massimiliano, la salsiccia intera se l'ha mangiata. Mangiata, ovvio. Non lo so, in mezzo alla polenta come l'ha trovata, se la pezzo intera, buh. Piglia chi? Un culo mio, non sa fare taglio, l'ha pigliato. Ciao, ciao. Dai, se la trova intera non la nasconde. Ma vai a fenderci di buco, se lo sai. E a chi non usa bene. Sta vedendo sotto i baffi, ciao. Ciao Tino. Ciao, ciao. Avanti, Dani, da Gianni. Ehi. Sì, quando sono così, QSO già va bene, dai. Non risultano monotoni, sono più frizzanti e ci si diverte e fa anche piacere rimanere attaccato alla radio, dai. Sì, ma va bene. Sì. Noi siamo noi, cioè ogni tanto agganci, poi stacchi, poi torni, che fai un altro discorso, va bene, ma se voluto te ne sei andato? No, l'hanno bussato alla porta. Ah, cappa, anche lui richiamato all'ordine, dai. Cappa, vabbè, quando capita che bussano, bisogna aprire. Certo che sì, certo che sì. Oh, yeah. No, vabbè, poco fa stavo vedendo varie notifiche, mi sono arrivate sulla mail, ogni tanto entro, arrivano un sacco di cose pubblicitarie, quindi entro e cancello tutto. Là. Scusate, sono andato a piedi giù, è arrivata mia figlia e mia moglie. Vi lascio al vostro QSO, se ne ho voglia, che non credo che ne ho voglia, riprendo dopo. Ma sicuramente ci sentiamo più domani. Ok, dai, buona mamma, è arrivato a cercare correndo, gioco con la fan. Ci sentiamo, buona serata e buona continuazione con questo. Ciao. Ciao Massi, buon proseguimento, dai. Alle prossime. Ciao, no. Massimo, dai, ci sentiamo, dai, dalle prossime. Ok. Non mi ammetto. No, ho detto che mi sono distratto poco fa, stavo cancellando delle mail che mi erano arrivate pubblicitarie, sto cercando di mantenere la casella della mail, insomma. pulita, perché prima era un casino, adesso sto sentendo spesso e quindi cancello un bel po' di roba. E io entro ogni tanto, entro, ma non ogni tanto, ogni quando mi ricordo, entro e ne trovo 70, 100, ne trovo tutta la roba pubblicitaria. Poi trovo, entro su eBay, guardo delle cose, come mi piace, quelle lì se ne vanno, tutti là se ne vanno. Sì, anche a me succede. Succede. Sì, vabbè, io ho fatto una scelta, praticamente su eBay ho spuntato le notifiche, cioè se per caso sto seguendo qualcosa che mi piace, ho scelto che mi insomma che eBay mi avvisi se sta succedendo qualcosa, beh, quello l'ho scelto io, però per un sacco di altre cose arrivano insomma, come si dice, queste email pubblicitarie, spam, prestiti di denaro, roba del genere, insomma, e quindi ogni tanto entra e cancello. Capa, no, io non ho scelto niente, eppure mi arrivano lo stesso, però non mi danno fastidio, a volte guardo certe cose, le guardo e basta, poi cancello tutto. Sì, no, vabbè, ti ripeto, per la storia di eBay già fanno comodo, magari, come ne so, stai tenendo d'occhio un oggetto, insomma, ti interessa qualcosa e quindi già fa comodo, cioè, il promemoria, avere il promemoria sulla mail. Il resto che è abbastanza fastidioso, allora ogni tanto, ti ripeto, entro e faccio pulizia totale. Guarda. Ma le principali ne ho 11, nelle offerte ne ho 16 e l'ho fatto l'altro giorno, le arrivano in tutte le maniere. Certo, sì, ormai una volta impostato, vabbè, poi ci sono tutta una serie di altri meccanismi, anche senza il tuo consenso, quindi spesso e volentieri bisogna fare una pulizia più approfondita, dai. Infatti, no, ma io mi cancello sempre tutto, mi cancello, non me ne frega niente, tanto, perché che non c'ho messaggi nel social, non mi interessa niente. Certo, vabbè, diciamo che la tecnologia, un certo tipo di tecnologia è molto particolare, praticamente attraverso tutta una serie di movimenti che uno fa su internet, praticamente creano una sorta di profilo, un profilo tipo, e a quel profilo praticamente vengono fatte determinate proposte di tutti i generi, quindi succede così, ecco perché poi si ricevono spesso anche delle telefonate fastidiose, infatti ci sarebbe, cioè c'è un numero di telefono relativo al garante della privacy per fare in modo di non essere più disturbata, ma pochi lo conoscono. Adesso è arrivata una richiesta di amicizia, il mio geometra. Ah, ecco. Ex geometra o geometra? No, è geometra. E quello che ha fatto il progetto. Ok. No, pensavo che si riferisse a... che avesse a che fare col tuo lavoro. No. Non ero nell'edilizia io, geometra noi non ne avevamo. Ok. Oh, yeah. Bene, Meda, bene, che ne so? 9:10. E mi sa che vado a mangiare anche qualcosa io, un panino, anche cosa, così almeno metto qualcosa sotto i denti. Dai, io magari la radio la tengo accesa, e casomai vediamo un po' se dopo mangiato entra qualcuno a farsi dei risati, se no ci aggiorniamo come sempre alla prossima, fra. Dai, io mi sgancio. Dai, buona serata, se c'è gente ci sentiamo più tardi, se no alle prossime, ok? Buona serata. Capo, dai, no, io chiudo del tutto. faccio più, non ci salgo più, mi guardo qualche film alla TV e via. Ci sentiamo. Ciao, buonanotte, buona carica quando la fai. Ci sentiamo. Allora, ciao, ciao, ciao Fra, buona serata. Ciao.